Attenzione, binario 10, cambio. Sono andato da Bricco, non ce la faccio manco a camminare. Cosa sei andato a fare? Comprare quello che devo comprare. Devo comprare vulcanizzante, nastro, e ho comprato i morsetti. Insomma, è un po' di roba a comprare. Fascette, preso ne hai? Fascette ne ho da seppellire. Ah, ce li hai le fascette? No, nel caso servono, non è che non sarà quello il problema. Nel caso ci servono, si usano. Fascette in plastica, fece. No, quella in ferro. Ma quella in ferro non mi ricordo che modello devo prendere, non lo so. Non me lo ricordo quale ci voglio. Quello in ferro non ne ho preso, no, non ne ho preso. Beh, vabbè, quello in ferro mi mancherebbe da io, perché c'è il tubo di sotto, quindi sono un pollice tre quarti e mezzo. Vabbè, bisogna prendere la serie, un pollice tre quarti e mezzo. Ma io ne ho di fascette di quelle lì, ma sono fine e fine, no? Non sono quelle che ci vogliono per l'antenna, eccetera. Sono morto, devo pulirmi la casa, ho mollato tutto, adesso mi sono sdraiato perché non ce la facevo più, domani mi posso tutto. Io mi riposati, tanto non c'è vento, dovrebbe entrare maestrale stasera, così ha detto il telegiornale, ma pure, cioè non è che dobbiamo, già va bene. Non ci siamo messi d'accordo. E vabbè, con le fascette non si sa mai, che ce ne serve a qualcuno, spero di no, di poter utilizzare quelle. Adesso vediamo. Se poi servono, si prendono da dove va. Oh yeah. Comunque, a cosa fatto? Ieri voi non ve ne siete accorti, ma io ho fatto delle operazioni che è andata benissimo anche con i VAT. Ma quando? Ieri? Ah, tu pensi che non me ne sia accorto? Chiedo ci indivirà di un viaggio Smith, se vedo il tuo segnale che sale, vuol dire che si è agganciato? Ma l'ho fatto proprio per vedere se dava stazionari, capito? Invece non è da. No, non era stazionari, che la molla è piazzata bene da Giuditto, ma non da Sant'Enna. Quello c'è solo da toglierlo, fare il lavoro che ho detto io ed esce piantone nuovo come questo. Questo è nuovo perché non è mai stato sboccolato, non è, c'erano i radiali attaccati e sono stati tolti, è meglio da vedere. Quindi questo è nuovo, non ce n'è di modifiche da fare, di niente. Quello è tutto da rimboccolare per poter mettere il radiale, se no te ne tornano a cadere perché l'alluminio è consumato. Questo è nuovo. Ma nuovo però, è stata una pulitina, certo è usato, però è in buonissime condizioni. E l'ho tutto recuperato perché praticamente c'era il filo staccato dell'avvolgimento, quindi immaginate tu il casino che avevo dovuto fare. Però adesso è a posto, il collettore è a bulloncini passanti, non più a vitti. Si mette il grasso sopra, così quando se dovesse succedere qualcosa si tolgono i bulloncini e si cambia il connettore. Tra l'altro sì, le viti non mollano più, una volta che si ossidano rimane il pezzo dentro. Il grasso col caldo non si sciuglie, e sono meglio le fascette secondo me, vale il vulcanizzante. Il vulcanizzante non esce di manco di tammato. Invece io adesso sono andato a vedere, c'era, cambia il discorso, è nato un uccellino. Era. Ciao Fra, arrivo un attimo. Dice, mi sa dove vulcanizzante nel radiale, io non ho mai messo vulcanizzante nel radiale. Quando il radiale entra bene nella sua sede, ok, e le stringi sotto le sue viti, bene, le sue viti nuove, grandi, non quelle cagate che c'erano, ok, e le metti un pochettino di grasso, non ce ne vuole vulcanizzante, quale vulcanizzante devi mettere? Tutto bene vulcanizzante, gli caghi l'antenna, non si vulcanizza, lì acqua non entra, cosa devi vulcanizzare? Quello è stagno, c'è una nulla, e a buttare via il vulcanizzante. E, boh, e poi ci va un pochino di grasso come c'è il connettore dell'antenna. Basta. Avanti. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, ben ascoltati. Sì, Alfred, beh, sto bene, buon anno. Buon anno anche a te già, poi tutto bene, lasciamolo da parte che è meglio. Vabbè, cambiamo discorso. Infatti cambiate discorso che è meglio, capito già, non c'è nemmeno vulcanizzante nella via, non c'è nemmeno vulcanizzante, non serve proprio a niente. È una mania che ci avvette di vulcanizzare il radiale. Il radiale una volta che entra nella sua sede entra 5 cm dentro. Così mi vulcanizza. Certo, quelli che avevi tu andavano vulcanizzanti, se non li perdevi. Qui se non li perdi. Nel modo più assoluto. E te lo dimostro che non li perdi. Quindi di vulcanizzante non ce ne va. Va vulcanizzato il centrale. E basta. E niente vulcanizzante nel PL. Lascio nel PL, non vulcanizzante. Ecco. Avanti. Ciao Gianni e ciao Claudio. Non so se c'è qualche domanda ancora. Ma c'è Gianfranco. Ok, ciao Massimo, vi sentite? Ciao già. Saluto anche a Gianfranco, non so se mi ascolta. Perché sei tutto rauco? Cosa sono, rauco? Sì, lo stavi cantando io. No, non sono rauco, non lo so. No, no, non è questo imbaracchino, la tua voce che mi sembra un po' raucidinosa, come diceva qualcuno. Ciao Gianfranco, buonasera, ben ascoltato. Riprendi. Sì, buonasera, buonasera anche al nostro amico Magnatrazzo. Niente, Claudio, ti volevo chiedere se, come sei messo domani. Domani che domenica. Come sono messo domani? Niente, non devo fare niente domani. Assolutamente. No, se passi per darmi tutto quel materiale. Esatto, sì. Che inizia già ad essere ingombrante. Guarda, io sono proprio vicino a te, esattamente intorno alle 8. Intorno alle 8 sei vicino a me, ma è un bel roba, cioè, non mi dare un certo di roba, non se lo per mettermi la mia. 4 radiali e una coroncina di radiali. E una coroncina di radiali? No, vabbè, i radiali mi servono, che così me li... Mi controllo se sono a posto, mi metto originali. E poi quella coroncina di capo, quella lì? No, quella se no, quella pesante, il coso, quella di radiali per, non me lo ricordo come si chiama, quella voi di Gardenia, ecco. L'importante è che ti possa chiamare intorno alle 8, dai. Perché poi c'è un impegno e finisco alle 9:30, credo. Vabbè, vabbè, ho già acceso il telefono, chiamano a quell'ora e così ci vediamo, dai. Me lo metto nel cofano della macchina, quella roba, poi la sistemo sul massacro. Va bene, d'accordo. Avanti Massimiliano, no, non è questione di radio Massimiliano. Assolutamente, ti sento un po' con la voce raucami, pensavo fossi un po' influenzato. No, negativo, claro, no, non sono influenzato. No, io sento un pochino male a Gianfranco, la verità. Gianfranco per lì punti sei favorevole. Aspettate un secondo che sono al telefono. Ehi, ma è favorevole, ma devi sentire voi due che è favorevole. Avanti già. Noi speriamo adesso, come fa un giorno bello, ne approfittiamo con Claudio e con il travaglio. Andabex, va bene. Cos'è, la domenica non fa perché tutti riposano sino a tardi, non vorrei rompere le scatole, invece gli altri giorni vanno a lavorare, non venissimo che ti rompi le scatole, allora organizzatevi un giorno in settimana, magari, un giorno di buono. giusto, infatti settimana mercoledì, se fa bel tempo mercoledì facciamo tutto. Va bene, ok, avanti Gianfra. Sì, ma non mi senti? Se siamo lì pronti è normale perché c'è un Monteoro in mezzo a piedi. Prima cosa abbassa la radio, siete di più un televisore di te. No, è il coso, l'altro, sulla... Ah, non fa basta. Sarola, siete di più l'appalato apparecchio che lui. No, vabbè, con questo c'è un po' di QRM, Santiago quasi 3. Se lo sento in mezzo al QRM. A me arriva bene. Sì, anche a me arriva bene. La mia è una stazione per la ricezione che non ha pari, quindi lui è, credo sia a 7 addirittura. Dove sei 9 già fra? Aspetta che passo con l'altra radio, voglio ascoltarlo lì. Vediamo quanto sta andando. Guarda, io sono addirittura con una potenza di 4 watt, che è anche troppo. Allora, qua si Santiago 7. Vabbè, non basta. Sì, a voglia, no, ti sto ascoltando. Ti ascolto. È da tratti, ma ci vedi. Scendo. Tratti, a tratti. Ancora, guarda un po'. Passaggio lungo. Guarda, 1, 2, 3, prova, radio, 2, 3, 1, 2, 3. Eh sì, si è addoppiccato e poi si è abbassata la radio. Si è abbassata la radio addirittura? Ma per un attimo sì. E adesso sta andando bene? Adesso sì. Ok, va bene. Pagappa. Cosa eri? Aiuta. No, no, negativo, negativo. Sono... Che adesso stai andando a tratti. Non so se Gianfranco se ne è accorto. Gianfranco? Come no? Sì, sì. Sembra che lì si sganci qualcosa, tipo saldatura fredda o falso contatto. Che non sia qualche PL d'ore, oh, aspetta. Ora, ora. Ora è andata bene. Guarda un po', 1, 2, 3, prova, dai, magari non so schiacciare mai il microfono, guarda già. L'impressione è che sia il microfono, non l'apparato, lo sai. Addirittura il microfono? Ho l'impressione di quello, la batteria è. No, è un Midland classico normale, tipo CTE. Prova a mettere un po' di spray per contatti del PTT a vedere se è quello lì, perché a volte entra la polvere e fa questo lavoro. E adesso ce l'ho fuori casetta, non ci esco fuori. Dai, cambio il radio. Avanti, avanti, Jean-Franc. Jean-François, alla francese. Bien sûr, nous allons à travailler. Andiamo a lavorare, la prossima settimana sì. Sto cercando di recuperarmi un affare di microfono, ne ho una tonnellata, però sono tutti duri, di quelli porta microfono, come si chiamano? Quegli affari metallici, di norma cromati. Ce l'ho io, Gianfra, ce l'ho io. Anch'io ne ho tanti, perché... però... sono tosti, sono duri. C'entra il microfono, non è utile, così me ne straccia il topo dove c'è dietro. No, anch'io ce li ho duri, basta che tu quella lamella che c'è dietro le allarghi e diventa morbido. Qua però quel lavoro non si può fare, perché è anche stretta, quindi cade proprio a pelo a pelo, ma... Vabbè, vediamo se è una signorina, ha messo tutto a posto. L'hai trovato, sì, l'intoppo? Sì, dai, no, ho cambiato direttamente il radio, va. Non so se con questa è meglio. Che problema c'è? Oh, dice che Colmagno stava andando tutto spezzettato, boh. Ah, così di Colmagno un poco fa, e allora era quello che sentivo io, questo va meglio, questo è il 30, eh. Ehi, ah, questo è il 30, no, Colmagno, dai, riprovo ancora. Allora avevo ragione, io ti sentivo con una voce un po' strana, Colmagno. Questa è un'altra gubba per me. Claro, usciva a tratti, capito? Usciva a tratti e poi di colpo gli si è abbassato il volume della voce. E poi si è abbassato. Guarda un po', lo sto riprovando. 1, 2, 3, prova. Va bene. Adesso va bene qua. Non ho toccato nulla, attenzione, non è che l'ho riacceso e basta. Non è che scaldato ti dà problema, no? No, questo non mi ha dato mai nessun problema, cioè, ma proprio zero completamente. Sì, vabbè, ma attacca l'altro, non mi piace la modulazione. Chi è che sta provando? E dove? Forse Splatter. No, anche io ho sentito sotto qualcosa. Sì, ma se ne ho da vostra qua non sento niente. Va bene, ok. Adesso va bene, Massimiliano. Oh, è come entrato il piede, che ne so. A volte sono. Io mi sono trovato addirittura nella stazione piede smollati, che li stringo a morte e poi si smollano da subito. Vabbè, io sono andato alla radio, è già. Aspetta. Avanti break. Non si è ancora congelato. Ciao, buon pomeriggio, ciao, mi sentite, non te lo posso dire perché oggi sei bassissimo, non ti sento bene, ti sento a livello QRM, non so gli altri come ti ascoltano, adesso ti mando Massimiliano e poi faccio girare, avanti di nuovo, buon pomeriggio. Pomeriggio, io non ti ascolto per niente, ieri ti ascoltavo ma oggi niente, vai cla. Ma questo è castigato. Pomeriggio, oggi ti ascoltiamo bassissimo tutti, fai qualcosa, mettiti uno sgabello per arrivare più forte. Aspetta, se sentami lo sento abbastanza bene, S4. Lo pomeriggio mi dicevi? Pomeriggio, l'hai sentito Gianfranco? Sarà congelato, c'è un freddo fuori. È caduto giù. Oh, però che bello che non c'è QRM, proprio zero a livelli proprio che senti tutti. Ma io ieri pensavo che ci fosse il freddo, sono sceso giù col cane, non c'era un filo d'aria, si stava benissimo. Vabbè, ci avevo anche giubbotto col cappuccio, però freddo non ce n'era come le altre volte di guida la faccia. Cosa c'è? Detto che io sono sceso tardi. E freddo non ce n'era. Sì, ma lì c'è freddo. C'è freddo perché c'è un po' di venticello freddo. Stanotte dovremmo entrare anche a maestrare. Non ho manco levicato per Natale. Sì, ma va bene lo stesso. Beh, Massimiliano, messo a posto, E cosa devo mettere a posto qua? Non ho toccato nulla, no. Ma stai andando col 30 o 4.30? Eia! Infatti adesso è molto più chiara la modulazione. Poco fa io quando sei entrato sentivo con una voce un po' strana, pensavo fossi influenzato, capito? Perché io l'NB lo tengo sempre disinserito, quindi non è un problema di NB. Soprattutto non ci sei tu. Però ti sentivo un po' strano in modulazione. Adesso invece la modulazione è più perfetta. Claro, ma quando sono entrato con questo lo stesso, non con quello. Non so, vuol dire che era freddo, non lo so, voglio leggere lui. Non lo so, adesso invece è migliorato, adesso la modulazione è perfetta. Appena si è entrato ho sentito la modulazione un po' rauca, non gracchiante, rauca. Magari mi ero appena svegliato, ho capito. Non drommi, no. E te, ti ha giocato la battuta. Io da già riposo, tu non drommi. A dormire non muoio, ma oggi non ho dormito perché mi stavo guardando un film a Italia 1. Va bene, no, mi hanno già mandato un messaggio per martedì a rientrare al lavoro. E che ancora vuoi rimanere a casa, non basta le ferie che hai fatto. No, anzi, non vedevo l'ora di rientrare. Io ho proprio necessità, capito, di staccare da casa. Mi assicuro che io perché sto lavorando. Perché non ce la facevo più a stare fermo. Assolutamente. Non si può stare a casa. Assolutamente, quindi si lavora. Avanti Gianfra. Chiaramente d'accordo, è una tortura, guarda, è una tortura, anche perché quando rimango a casa mi tocca lavorare ancora di più. Quindi sto lavorando anche adesso, tra una cosa e l'altra. Non si finisce mai, almeno al lavoro ci sono le pause, qua no. Se c'è una donna ti tratta bene. Chi ti migliora giù? Ascolta, Massimiliano, quel cammello che hai usato tu con la bombola per il catrame di chi eri, di Antonio? E io? Vabbè, allora niente, già me lo faccio dare da un altro, pensavo che era il tuo, perché devo fare un pezzo in un condomino di che il vento ha staccato il cartone catramato, già comprato, devo attaccarglielo. adesso un altro paio di maniche. Adesso ti sentiamo bene. Ricevuto, ricevuto. Va bene, io rimando un po' qui nel terrazzo. Infatti penso dopo che ti fossi bernato, che fossi diventato un iceberg. Poi e prendi una decisione, mettiti questa antenna così almeno non stai fuori, freddo. Ma io lo faremo volentieri, devo un attimo saltare il posto del condominio, ma la prima riunione condominiale lo faccio presente. Comunque preferisco avere un braccetto qui, portarmi la stufa, ma non avere problemi col condominio, tanto. Cosa ti volevo dire? Ma tu c'hai, se è la concessione tu hai il diritto di mettere l'antenna, non c'è condominio che valga. Se tu hai una concessione, te la devono far mettere per forza. Sì, certo, io ho una regolare concessione, pago il 12 euro annuale. Il problema è che devo studiare bene come far passare il cavo, e questo è il problema, perché il mio fluviale è lontano da ogni abitazione, quindi così adesso vedo un pochino alla prima riunione, comunque è il caso che per correttezza glielo dico, almeno non ci sono problemi dopo. Va bene, io l'ho fascettata pluviale, non l'ho messa all'interno, l'ho messa all'esterno e va bene lo stesso. L'ho messo dietro, non si vede nulla. Ok, vedi tu, avanti a chi spetta, Massimiliano. Ciao, ho cambiato radio così lo ascolto anche a... con questa lo ascolto al Lupo Grigio, là. Mi ascolti tu, Lupo Grigio? Ti confermo, ti ascolto. Mi appunti anche approssimativo, mi appunti pensa Yolanda, mi appunti pensa Yolanda. Tu da dove moduli, torna tu? Io sono zona di punti, dai, Santiago 5 qua mi arrivi. Bene, ricevuto, ricevuto. Come ho detto ieri, ho conosciuto un amico in verticale, Tino Muscolo, eravamo da sputare insieme, ci siamo presentati. Sì, sì, sì, abbiamo già discusso ieri di questo. Ok, vai, lo fa. Sì, in effetti ha migliorato, qua è 5 su 5, quindi abbastanza, c'è una differenza non da poco. Qua è Santiago 9. Beh, lì si mette un'antenna che gliela fanno mettere, una volta che la mette, un bel cavo. C'era un difetto da fare. Torra, si è mancato di radio a colpi. Succede, oh. Ah, non lo so qui. Dove è stazionare Massimiliano? Non ce n'è, quando modulo 1 e 1, 1 e 2, sto esagerando 1 e 3. Aspetta che provo a inserire il microfono dall'altra parte della radio. Questo ne ha due, aspetta. Non sono stazionare con le piccole modulazioni che lo fa molto. Tante multe da provare, se c'è uno e uno stazionale non ce n'è. Assolutamente, faccia sia il microfono. Ho detto Nicola, Lupo Grigio, ma tu eri dipendente del Ministero dell'Interno per caso? Si conferma, Non ho capito, visto Gianni che non mi sono sbagliato. Guarda qua, oh Claus, è meglio, ho cambiato il microfono dall'altra parte. Quindi sono ritornato al mio primo amore, ovvero sì, non ho capito cosa hai detto perché avete parlato in due con Massimiliano. Cosa hai detto Massimiliano? Ho detto che ho cambiato il microfono, ho inserito il microfono dall'altra parte della radio. E così stai andando bene, se non fa difetto stai andando bene adesso. Gappa, avanti già. Allora può darsi che sia il connettore interno della radio, se non fa difetto con questa parte, probabilmente sono gli attacchi che ci sono dall'interno dello spinotto del microfono. Già può essere, no, ma può essere anche il microfono magari, capito, che è sporco all'interno, boh, e adesso c'ho tanti anni anche questo. Il microfono stai usando? Un Midland, tipo GTE. Ah, ho capito, è come quello che c'ho io adesso, lo stesso. Gappa, ok, avanti Gioffra. Sì, adesso stiamo andando bene. Mi ha notato un attimino, ma devo recuperarmi delle viti, devo uscire fuori insieme ai pinguini. Rientro subito. Sì, ma il pinguino non ce n'è freddo. Ho detto Nicola, ma facevi servizio qua in Sardegna o eri fuori? A Sassari, facevo servizio a Sassari, per il via Rossupelle. Sì, non mi sono sbagliato. L'ho detto l'altra volta. Che via Rockefeller faceva il servizio al Ministero dell'Interno molto bene. Ok, quindi sei tornato, sei tanti anni qua a Sassari, quindi hai fatto tutto il servizio qua? No, sono stato in Campania, Milano, Torino, girato tutto, ultima sede Sassari, e mi occupavo di trasmissioni, sono lo specialista delle trasmissioni del mio ente. E tu come non ti è mai saltato in mente di farti dare la patente radioamatore? Lo sai che non fai manco l'esame se hai il patentino del Ministero dell'Interno? Ma effettivamente ci ho pensato tardivamente, perché mi hanno detto che dovevo fare la domanda entro un anno dal pensionamento, e se sono passati 5, non so se me lo danno ancora. No, non te lo danno più. C'è stata una proroga di 2 anni, dopodiché non è più prorogabile, quindi è decaduta. Ah, ci picchia. Dovevi farlo. Non avevi accesso neanche all'esame. Te lo davano diretto. Nominativo. Vabbè, un mio amico ce l'ha e l'ha presa appunto. Con lo stesso sistema tuo, quando è andato in pensione ha fatto la richiesta entro l'anno, ha fatto la richiesta di licenza e patentino da radioamatore. Peccato, ma ci picchia. Vabbè, comunque lì mettila un'antenna, perché guarda, arrivi veramente molto forte qua, si sente la nuova con quell'antenna del portatile. Evidentemente sì, nella zona prossimità di praticamente di Marco Condor, quindi si avvista come arrivi Santiago Novo. Se mi metti un'antenna sul tetto, caspita, arrivi molto bene. Avanti Gianfra. No, io mi sono trattenuto perché volevo fare una domanda all'amico che è andato in pensione, che era prima in via Rockefeller. Quando tu eri ancora lì in servizio, il Tetra non c'era ancora, confermi? Confermo. Quindi l'hanno messo dopo, perché infatti io esco al lavoro lì a fianco, ci ho parlato e mi hanno detto che l'avevamo messo solo l'antenna, tutto l'altro non c'era, adesso invece è operativo. Credo di sì. Io che devo fare una domanda, io non conosco il mondo degli OM, ma chi parla come stiamo parlando noi, o sono oltre al nominativo che è stato dato in cielo, ma era la stessa ruota dei CP o no? Rispondi tu Gianfranco, perché io e Gianfranco siamo radioamatori, siamo M, però siamo anche CB, siamo nati qua e qua vogliamo morire, a differenza di tanti altri OM che pensano di aver superato la soglia dell'università. Invece qua si è nati e qua si muore, come tutti. Io e Gianfranco siamo forse due dei pochi che ancora frequentano la 27 nonostante siamo M. Rispondi tu Gianfranco. Sì, la ruota diciamo che è un po' più ordinata, però più o meno ci siamo, a parte il nominativo, questo nostro può essere benissimo, può essere amatoriale, solo che magari i giri di là sono più precisi, capito? Tutto lì, poi altre differenze non ce ne sono, se non per gli apparati e le cose del genere. Io preferisco un po' qua perché almeno c'è gente, di là oramai o sono tutti sull'altro canale, sul canale zero, oppure se ne sono stufati, anche perché come i cellulari ci hanno rovinato. Anzi, la CB mi meraviglia che sia durata, dato che ci sono queste applicazioni anche CB Talk e compagnia cantante in giro. Vabbè, rilancio a Gianni, così fa girare, io devo prendere queste viti. No, ditelo che si parla anche di cose professionali, tipo antenne. antenne, come costruire un alimentatore, tutte queste cose, c'è molta tecnica nella banda OM o gruppo grigio. Sì, questo posso capire. Ma lascia perdere già. Siamo le due licenze, quindi banda F e la 144, adesso sono state unificate in un'unica e se non ricordo male è stato abolito l'esame di telegrafia, ma lo confermi tanto? Ah, te lo confermo perché lo so, ma io non sono M. Sì, è così. Quello di telegrafia era stato abolito. E quindi potrei al limite anche provare a fare l'esame, anche perché quando il ministero mi ha dato la specializzazione ho dovuto studiare durante il colloquio. L'ho pensato uno scherzo. Vai. Rispondi, hai parlato tu, rispondi. Che cosa devo rispondere? Non ho capito la domanda. Ripeti, non ho capito cosa mi hai detto. No, ho detto che potrei provare a fare gli esami a casa. Anche perché per sempre questa specificazione, oltre al diploma che se ne viene necessario, abbiamo studiato 2 anni, ci hanno fatto fare un corso di 2 anni, proprio su questo argomento. Quindi ancora mi ricordo, spero che ho studiato, potrei provare. Puoi tentare perché se hai le basi ti viene molto più facile. Tentaci. Ci provo. Solo che un amico mio che era 244 mi ha detto che per il rinnovo della licenza il ministero voleva sapere che apparato aveva. Invece per il CD nella domanda non era specificato. Vabbè, adesso no, però quando l'ho fatta io la domanda ci bisognava mettere il tipo, il modello, il disturbo, quanti di guadagno, questo e quell'altro, disturbi che dava, tutte queste cose qua. Io ce l'ho ancora scritto la domanda che ho fatto e volevano sapere un po' di roba, anche il numero di matricola. Invece quello che mi ha meravigliato, io ho fatto l'anno scorso domanda per avere l'autorizzazione del CD, anzi, mi devo ricordare che entro questo mese devo fare. Non è così. Nel modello che io poi non mi sono fidato e ho telefonato a Cagliari, non hanno voluto neanche sapere il mio QRZ, cioè il nominativo. Mentre prima mi ricordo che era obbligatorio. È vero, prima dovevi dare anche il nominativo. Cosa non è così, Claudio? Avanti. No, faccio le domande a Massimiliano, poi ti do due risposte definitive di quelle delle domande che hai fatto Gianni. Riprendi Massimiliano. Aspetta, sto sistemando un mobile, aspetta, mi sto mettendo una cerniera. Il pantalone vuol dire la cerniera. Si è sempre con la picchiera da fuori. Quindi è una cosa pro forma quella di scrivere le radio che hai, eccetera, perché noi con Gianfranco abbiamo rinnovato da poco. È una cosa pro forma, puoi scrivere quello che ti piace. Poi per quanto riguarda gli esami, non è più come quando li ho fatti io nel 92, adesso si fanno i quiz come la patente, quindi ci sono 32 domande e tu devi dare 32 risposte, di cui almeno 28 devono essere giuste, okay? Quindi a quiz, non è più come era prima, un tempo quando l'ho fatta io, che c'era il compito scritto di 5 ore, ti davano 5-6 ore massimo, proprio come un compito scritto di diploma, di scuola praticamente. Poi si è a quiz, quindi è molto più facile. E poi le patenti sono state unificate, non hanno eliminato la telegrafia, sono state unificate le patenti. Quindi prima c'era la patente speciale, che era quella EW0 che io avevo prima, e poi c'è l'ordinaria, che adesso è unica, è una patente unica, non si chiama né speciale né ordinaria, è una patente unica, tutto qua. Ma nell'esame la telegrafia te la fanno fare? No. Ma è quello che sto dicendo. Devi essere, io ad esempio sono stato esonerato dalla telegrafia, mica l'ho data la telegrafia, invece Tore l'aveva data, l'ho accompagnato a Tore dalla telegrafia. Io sono stato esonerato perché quando ero in Marina ero un caporale maggiore radiotelegrafista navale, praticamente ero imbarcato sul Vittorio Veneto. Adesso se non ricordo male, la telegrafia è soltanto nella Marina Militare, perché se non sbaglio, con il sommergibile sotto l'acqua, funzionano solo la telegrafia con le onde lunghe, sotto l'acqua, in pressione, se non erro. Sì, vanno solo in eufonia praticamente, sì. Esatto, con il telegrafo. No, però non solo il telegrafo. Va bene. No, già l'hanno eliminata, nel senso sulla carta, perché hanno unificato le patenti e quindi non c'è più la speciale ordinaria, allora hanno unificato un'unica patente e non te lo fanno più fare l'esame, capito? Però quando l'ho data io ancora c'era, però io sono stato esonerato. Mi avevano richiesto, avevano voluto non la vostra della Marina Militare, quindi avevo richiesto dalla Maddalena, tramite la Capitania di Porto Torres, il nulla osta, e quindi sono stato esonerato, non ho dato io telegrafia, però gli esami c'erano ancora. Dopo mi pare un anno o due anni sono state unificate le patenti, capito? Provaci Nicola, provaci, se hai le basi come ti ha detto Gianni, ripeto, gli esami sono a quiz. Non sono più esame scritto, compito scritto, come quando l'ho fatto io. Adesso sono a quiz ed è anche un po' più facile, insomma, se hai le basi riesci a rispondere benissimo alle domande. Poi c'è il presidente di commissione che gira per i banchi e dà sempre una mano un po' a tutti, ecco. Sì, certo, se voglio provare. Ti faccio una domanda, ma per caso sei stata alla scuola di trasmissione dell'esercito o interforze a Cavani, per capire? No, io ero alla Spezia e poi ho fatto servizio a Rappallo, al centro appunto del telegrafo a Rappallo. E poi sono stato imbarcato sul Vittorio Veneto, dal Vittorio Veneto sono andato alle scuole sottufficiali della Maddalena, alle scuole allievi sottufficiali e ufficiali della Maddalena. E lì mi sono congelato nel 1979. Ho capito, no, perché quella è una scuola dell'interforze, cioè è detto che anche la Marina che facevano, studiavano per le telescriventi. Quindi io ci sono stato tre volte per corsi di interna specializzazione sulle trasmissioni. Allora, c'era il ministro Zamberletti. Vabbè, bei tempi. No, io ho fatto direttamente lì le scuole CEM alla Spezia, poi mi hanno trasferito al centro operativo del Rappallo e poi da lì sono stato imbarcato sul Vittorio Veneto. Quasi l'ultimo anno, io ne ho fatto 24 mesi, quasi l'ultimo anno, 10 mesi mi pare, li ho trascorsi tutta la Maddalena nella scuola lì, mi sotto ufficiale, lì mi si è congelato. Vediamo se è rientrato Massimiliano. Sì, io ero a Mariferme. Lo vedi tu a Mariferme? Mariferme dov'è la Maddalena? A Gala. In che anno eri tu la Maddalena? Sì, non me lo ricordo. E penso un anno prima di te. Ma ci sono stato poco. Non mi hai fatto militare? Settimana. E allora sei andato a fare le visite, noi a Mariferme. Ti hanno mandato lì per fare le visite e poi ti hanno esonerato. Ero lì per fare le visite, basta. Allora ti mandavano lì, prima ho fatto la visita a Porto Torres, ti ricordi che si faceva a Porto Torres prima, e poi sono andato alla Maddalena e ho fatto le visite. Figurati a me, quando mi è arrivata la lettera per partire, però si faceva molto in voga, allo scoglio lungo, la mazza ne arrivava, era un freddo lì. Con il coso del nautico, la barca del nautico facevamo molto in voga e poi ci facevamo nuotare dalla spiaggia fino ad arrivare lì allo scoglio che c'è lì, alla punta proprio dello scoglio lungo. Allora si faceva molto in voga. Sei idoneo, allora ti mandavo alla Maddalena per fare la visita, ma io sono partito direttamente da Porto Torres, potevo rimanere anche a Porto Torres, mia madre non trasferirmi alla Svizzera, ma mi è servito comunque. Fatto per farti maturare, perché magari non avevi il gabu. No, anche perché non ne avrei fatto militare, sarei stato sempre, capito? E in quei tempi il militare era militare, c'era grande disciplina, grande serietà e severità soprattutto. Però io ti ripeto, sono capitato molto molto bene, perché sia alla Svezia ho trovato delle persone eccellenti, mi hanno messo subito un ufficio al telegrafo e poi anche a Rapallo, che era un centro distaccato, e da lì poi mi avevano chiesto se volevo fare 6 mesi di imbarco, perché prendevo anche molto ma molto di più, e quindi me li ho fatti. L'ultimo sbarco con Vittorio Veneto l'abbiamo fatto quando, cioè io ho sbarcato quando è caduto l'aereo a Punta Raisi, che è partito, che sono partite le due navi della Marina Militare, la Duilio e il Vittorio Veneto, a recuperare morti. Da lì ho chiesto subito lo sbarco, sono sbarcato e mi hanno detto: lei se sbarca da qua può andare solo alla Maddalena. Perfetto, guardi, mi va benissimo la Maddalena, perché c'avevo già il grado, e quindi mi hanno mandato alla scuola dei vice ufficiali. Ho fatto servizio proprio lì, ero negli uffici delle poste interne, praticamente dove c'era il telegrafo allora. Le visite vere e proprie me l'hanno fatte a Porto Torres, poi mi hanno mandato al Marinferm, mi hanno ricoverato lì al Marinferm e poi mi hanno fatto delle ulteriori visite, e c'era una suora che mi aveva preso in simpatia, mi portava le gallette a colazione, mi coccolava, mi aiutava a fare il letto a chi non ne sa più, va? Non si saprebbe perché ti hanno esonerato. Formato mi hanno riformato per alcune problematiche che ho, fisiche. Mi ce le avevi già da prima? Che una paresi ostetrica ho avuto. Ah, è vero, già, sì, quella del braccio, sì, adesso sì, ho capito, beh, chiaro, mi invitano, lo potevi fare, che ero riformato, vabbè. Invece io ho giocato di tutto, quando fanno, ma il biliardo di subito, una mazza che nelle varie. Avanti Massimiliano lo riprende, Nicola riprendi tu. Sì, comunque quando uno è giovane, a 18 anni, vuole sempre, almeno io quando mi sono arruolato, mi hanno mandato un po' anch'io a andare lontano casa, altrimenti non andava bene. Ebbe comunque bei tempi, ma adesso tranquillo, in pensione. Ma volevo chiedere, non hai mai pensato di fare carriera dove ti trovavi? Di coppia, deve essere Claudio, o l'hanno telefonato e occupate le altre cose, non ha risposto. Vabbè. Diciamo che adesso sono fortunati e quando si arruolano li tengono un po' fuori e poi li mandano subito a casa. Sì, lo so, forse va bene così, non so, va bene. Comunque io sono sempre d'accordo sul fatto che la radio funziona, i telefonini no, perché se c'è un terremoto e si sposta di un millimetro la parabola non parli più. Questo ancora non è stato capito, che con la radio si parla bene. Hai pienamente ragione, infatti la protezione civile usa la radio, non il telefonino. Uia. Caro Nicola, tu immagini che sarei stato, Madonna santa, almeno 10-15 anni in pensione. Però da ragazzi, dice quello, lo gabbo di Vuma, me mi hanno messo davanti il congedo e la firma per rimanere. Ho detto no, guarda, mi dia il congedo che voglio andare via. Ed avevo già il grado di sergente, figurati. Quindi mi sarei congelato come maresciallo di prima a 2500 euro al mese. Però la testa era da ragazzino e quindi è così. Com'è capitato a me? Testa di rappa che siamo tutte e due. Cosa succede pure ancora c'era tanto lavoro, come non ce n'era adesso, quindi lo Stato era visto come un'ancora di salvezza. E qua anche a Gianfranco è successa la stessa cosa. No, beh, io grazie a Dio sono già al di fuori del lavoro e ho 60 anni, quindi Nicola, non ho quei problemi, ho iniziato a lavorare a 17 anni, anzi a 16 anni, assicurato con tanto di documentazione. Infatti quando sono partito militare io stavo lavorando, ero già al lavoro, assicurato e tutto. Quando sono rientrato a fare il militare sono rientrato davvero, mi hanno tenuto anche il posto di lavoro, quindi sono stato anche fortunato in quel senso. Però dico, oggi come oggi, con le pensioni minime che ci sono di poco più di 1000 euro al mese, avrei preferito prenderne 2000 da sottufficiale della Marina in pensione, no? Penso che sei d'accordo, no? Sì, sono d'accordo, assolutamente sì. Comunque l'importante che hai potuto lavorare tranquillo, mentre in Sicilia non era così, se ti assumevano allora non ti mettevano in regola, assolutamente, e quindi lo Stato era visto, come ripeto, come l'ancora di salvezza, infatti forze di polizia, esercito, erano tutti delle società. Ora è cambiata, trovi militari, forze dell'ordine di Bolzano, di Milano, mentre prima non ce n'erano, eravamo tutti delle società. Lo so, io, mio cognato che è siciliano di Gela, c'è una casa di 250 metri quadri a Gela chiusa, perché lui è partito fuori all'estero, perché l'Anici lo sai che lì a Gela è andata male, come quella di Porto Torres e come tutte le altre. Quindi lui è andato fuori al lavoro, siccome è un bravissimo tecnico tubista, oggi è diventato un supervisore della Saipem, del gruppo Eni, prende una barca di quattrini, però è sempre fuori all'estero, adesso in Algeria che stanno completando il metanodotto, quindi un supervisore prende una barca di quattrini, ma inizialmente era lì, come ha fatto sempre il capo squadra lì all'Anici di Gela. Perciò e mia sorella ha dovuto chiudere tutto per non rimanere di sola e prendersi la casa in alberghiero, perché ci sono le altre mie sorelle, capite? Quindi è un casino, purtroppo è un casino, e vabbè, comunque. L'importante è che ci sia lavoro e che si vada avanti, poi per il resto prendiamo le cose come sono, intanto non le può cambiare più nessuno. Avanti Gianfranco. Ok, c'è uno che chiama sotto, avanti. No, negativo, non riprende. Ti stavo dicendo, comunque è cambiato molto, perché anche nell'esercito adesso è dura, prima magari di leva rimaneva sempre chiuso in caserma, eccetera, adesso dopo qualche giorno ti mandano fuori. Io conosco gente che è marina, ma è dura, signor sì, signor no, ramazza, pulire, tutto luccicante, poi ci sono i turni, insomma è pesantuccia la cosa. Scusate, volevo dire una cosa, anch'io ho 60 anni, quindi sono del 59, tanto. Che anno sei tu, Nicola? Nonostante sono ancora in servizio. grazie alla Forbera. Io sono del 1959, maggio del 1959, tanto. Aspettava, siamo coetanei, anche Gianni è del 59. Sì, infatti me l'ha detto prima, noi sessantenni siamo la classe di ferro, insomma. Quanti anni sei? 5 anni già in pensione, quindi sei andato a 55 anni in pensione. Si conferma, io a 18 anni ero già sotto, ho iniziato la carriera in sostituzione del servizio militare e poi ci sono rimasto, quindi io subito dopo il diploma degli industriali, sono diplomato nel 1978 in informatica. computer enormi di un'intera stanza dove di memoria Commodore 64 e sono subito partito. Infatti io l'ultimo anno di scuola non avevo fatto il rinvio militare, infatti mi sono diplomato a luglio e a ottobre sono partito subito per l'accademia. Quindi ti sei congelato con un grado alto? No, no, no, ho un grado alto di sottufficiale, maresciallo aiutante, quello che per capirci ai binari di colore rosso. Sì, sì, come luogotenente ti sei congelato, dai. Si conferma, si conferma, quindi ma con la pensione non arriva a quelle cifre che mi hai detto tu, anche perché mia moglie lavora, quindi i figli sono tutti sistemati, di cui uno che mi lavora all'Enel, quindi non ho altri introiti di altri familiari. Sì, va bene, comunque c'era una buona pensione, beh. Stiamo lì a fare calcoli, comunque a quei tempi quando si andava in pensione nella Marina io ho due amici che sono andati in pensione come, con lo stesso grado che avevo io, anzi uno andato in pensione come sergente maggiore, quindi un baffo in più, non arriva a 2000 ma a 1900 li prende, invece le pensioni che danno adesso normali arrivano a 1300-1400 euro e si è arrivato. Vabbè, quello è quello che bisogna prendere. Vediamo Massimiliano se c'è. Massimiliano non c'è, Gianni riprendi. E 3.400 è già un bel 1.100, 1.200 1.300, 1.400 è già molto. Fortunato perché io riprendo con il retributivo, quindi ho preso di pensione quando prendevo di stipendio. Esatto, esatto, anch'io sono andato alla retributiva. C'è mio suocero che è andato in pensione come ispettore, prendeva più di pensione che di stipendi. Beh sì, calcoli retributivi, uno andava in pensione con l'ultimo stipendio, però siccome pagavi meno tasse, praticamente non consiglia in più dello stipendio. Lui era ispettore in polizia. Beh sì, era il mio stesso grado, perché il grado di ispettore è uguale al grado di maresciallo, quindi meno male siamo lì. Ma era qui a Sassa l'interrogativo. Appa. Ma si occupava di mercato di trasmissioni o di altre cose? No, di altre cose. Interrogava lui. Interrogava i malfattori. No, ripeto, io ho voluto fare questo corso di specializzazione, anche perché ho sfruttato il diploma tecnico che avevo, poi a me le trasmissioni sono sempre schiacciate. Dico la verità, mi sto trovando bene a cercare di risolvere problematiche che ce ne sono, fanno un niente grande. Ma ho avuto anche grandi soddisfazioni, anche roba scritta, ringraziamenti scritti. L'ufficio canterino era il tuo suocero, diciamo. Beh, ha fatto tante cose, prima è stato in pattuglia, quando era a Roma era in pattuglia, poi è stato a Reggio Emilia, lo mettevano a fare, lo facevano travestire, andava in discoteca per fare l'antidroga, insomma, ne ha fatto un mese, poi alla fine è finito in ufficio dove facevano interrogatori. Sì, vabbè, gli uffici sono tutti quelli etero, quindi sì, infatti stavo dicendo io già, il grado di ispettore della polizia è come il grado di maresciallo maggiore aiutante, quindi luogotenente dei carabinieri. Va bene, va bene. Caro Nicola, avessi fatto quel passo, non sto male, ma comunque sarei stato molto meglio. Con 600 euro in più sarei stato molto meglio. Ok, già 1100 euro erano a chi non ha raggiunto, ho detto già dall'altra volta, 41 anni e 6 mesi di retribuzione, capito? Ma chi ha raggiunto i 41 anni e 6 mesi prende come me e Franco, per esempio, i SOS, siamo lì, 1450. Se no con i 35 anni prendi per me 1100 euro. Sì, effettivamente è così, sì, perché mia con la quota 100 e comunque se fosse andata via con 35 anni era molto di meno la pensione. Sì, sì, a me me li avevano già fatti il calcolo, infatti ho resistito e poi sono riuscito a fermare uno scivolo di 2 anni, però è quello, il calcolo è quello, per poter arrivare ai 41 e 6 mesi sulla, sul mio settore, capito? E vabbè, non va bene lo stesso, no, rimpiango sempre, non lo dimentico mai, rimpiango sempre di non essere andato prima col massimo e con molti più quattrini come hanno fatto i miei coetanei che sono rimasti in marina e sono andati via dopo 35 anni di servizio con uno stipendio da paura, una pensione da paura, veramente una pensione da paura, intorno ai 1.800, uno mi pare 1.900, vabbè c'è qualcuno che passa anche 2.000, però c'è il grado superiore, una pensione come maresciallo di prima, quindi tre binari. E vabbè, pazienza. Gianfra, riprendi. Comunque adesso, a prescindere dai discorsi con le pensioni, oramai c'è solo contributivo e basta. Io sono ancora uno di quelli che credo andrà col misto, no? Quindi mezzo. Però io rimango, capito? Devo diventare il più vecchio che c'è in quel posto, quindi farò compagnia a quei carabinieri che sono anche lì, che li vedo ogni giorno, e a quanto pare anche loro sono tutti anziani ormai, ma anziani sul serio, oltre 60. Sì, ho ripreso, se mi avete cercato. Vado 108 perché c'è un po' di stipendio. Volevo dire che comunque uno per la gente militare deve accettarlo per come è, perché è diverso. Quando si sta diverso, anche se mi sono spiegato. Sì, sì, ho capito perfettamente, sì, ma se gli altri cercato la risposta se ti lascia, sì, sì, ho capito, non ci sono problemi, Nicola, tranquillo. Sì, beh, già sto parlando di prima, certo che adesso si va con la contributiva, perché bisogna andare con 41 6 mesi, se no pizzichi brucchi nuda, se vai con anche quota 100, non... 3.62, sei intorno a 1.100 euro, 1.150, perché contro mio fratello, ha rinunciato e sta continuando a lavorare, non ci vale, fa 62 anni a marzo, capito? Fa 62 anni a marzo e no, non ci va, non ha rinunciato, vuole andare con il massimo dei contributi, quindi con 41 6 mesi, quindi ha 39 fatti di contributi e niente, vabbè, ok, riprendi Massimiliano. Sì, a me ne mancano pochi, dai, ancora qualche anno dovrei fare la pensione anche io. Sì, ci arrivi anche tu, ti preoccupare, pronta tu sempre, pronta, vedrai già passi. Mamma mia, come sto, questo bovernaggio a travagliare, oh yeah. Massimiliano, vai da 43 anni, ne ho avuto 19, cosa vuoi? Quelli sono tutti i contributi che tu hai perso. Lo sai? Ho detto, sono tutti i contributi che hai perso, quanti anni hai? 45? Eia, 45 e 26 di contributi. E sei già molto avanti, ma io te ne frego 19, quindi di anni e di età, perciò abbiamo iniziato prima. Anche Nicola è andato in pensione 5 anni fa dall'arma, dal ministro dell'interno, e c'ha gli stessi anni miei di Gianni. Avanti Gianni, doppio root. Si può cambiare discorso perché sono incavolato per questo discorso qua, guarda, sono incavolato, io ho già fatto 2 volte la domanda e mi è stata respinta e adesso vediamo, adesso c'è un altro da fare e poi si dovrà aspettare, io devo fare, tanto lo stipendio ce l'ho lo stesso, si, quando si stufano. Ragione, ora è piegato, chiudiamo il discorso, non voglio più parlare. 62 38 oppure non ci puoi andare, non ci puoi andare, te la respingo, puoi fare anche ricorso, te la respingo, già, te la respingo, ok, a meno che non andavi con quota 41, senza età, anche adesso, a 58 anni, 59, quello che vuoi, quota 41 si chiama, 41 anni e un mese di contributi, allora potevi andare, ciao a tutti, arrivederci, capito? Ma così non puoi andare, non puoi andare, continua a stare così, tranquilla e serena, perché guarda, un mio collega, adesso è problema tuo, diciamo 50-50, tu c'hai qualche cosettina in più di patologia eccetera, ma lui l'ha fatta due volte, ha fatto ricorso al TAR e tutte e due volte il TAR gliel'ha respinto, non c'è niente da fare, è una legge sbagliata, ti capisco perfettamente, è una legge sbagliata, però questa è la legge, come si dice, fatta la legge e trovato l'inganno, hanno fatto un casino Gesù Cristo, bastava lasciare 35 anni di contributi e tutti erano liberi di andare in pensione, invece hanno fatto un casino Gesù Cristo. Allora tu forse non sei formato bene, a me il sindacato mi ha detto che io ho diritto a 5 anni di scivolo, quindi io ho già diritto ad andare in pensione, solo che loro fanno sempre così, respingono, secondo ce la fanno, poi ti pagano tutti quanti gli arretrati, però adesso devo andare, mi devo presentare col medico legale. Vediamo un po' se davanti al medico legale dicono quello che vogliono loro. Gianni, chiudiamo il discorso, se no magari diciamo qualche parola in più e vi diciamo. Chiudiamo il discorso, lascia perdere. Ho detto che a me del CAF, con tutto rispetto, non me ne può fregare di meno. A me il CAF non mi rappresenta niente, ok? L'INPS è quella che decide, non il CAF o il sindacato. Il sindacato dice quello che ti pare e ti piace. Ti ricordo che nel 1998 a noi, cioè tra il 98 e il 2002, a noi il sindacato, la CGL, ci ha venduto a Dabanoa, hai capito? Ci ha venduto, hanno fatto un accordo regionale interno, ci hanno venduto, ci hanno tolto il FISE, hanno tolto il mio contratto e ci hanno dato quello regionale dove ci hanno tolto 400 euro dalla busta paga, la CGL. A me non mi parla di sindacato perché non li posso vedere, ok? Non puoi andare, non esiste uno scivolo di 5 anni, non esiste. Dille al sindacato e faccio una cagata, che ti ha detto Claudio Marti, e se no me lo metti per iscritto, non esiste. A mio fratello l'hanno rifiutato, ok? Ma non l'ha fatto lui, no, gliel'ha fatto l'AGI, che è un ente pubblico, gli ha fatto una richiesta di scivolo per 2 anni per poter andare via prima, ok? E gliel'ha respinto, l'INPS gliel'ha respinto, con tanto di commissione medica. No, scusate, state facendo un pochettino di confusione. Come dice sotto carta accanta, allora i 5 esattamente, anzi vi correggo, la legge dice, legge, non sindacato e niente, disposizione dell'INPS dice che praticamente per ogni anno gli invalidi spettano 2 mesi di contribuzione, quindi in tutto per un massimo di 5 anni, ok? Quindi ci sono 5 anni di scivolo per gli invalidi, dal momento in cui decorre l'invalidità del 75%, anzi no, del 74%, scusa, superiore al 74%. Quindi quello che diceva Gianni ha ragione, non è a discrezione né dell'INPS né di nessuno, è una legge proprio dello Stato, ok? Poi ci sono tanti altri scivoli, può darsi che tu Claudio ti riferisci a quello, ma lo scivolo per invalidità quello è, però devi avere quelle caratteristiche e devi farti ogni anno, cioè 2 mesi, però li devi fare l'anno, capito? Non è che ne fa un mese e poi ti innandi. Sì, non so, se mio fratello nella stessa situazione di Gianni, lo so, ho capito perfettamente. Lo so perfettamente quello che hai detto, tranquillo, Il problema è che loro dicono che se tu in quell'anno non hai appunto raggiunto i mesi che loro ti hanno inserito, perché loro cosa calcolano già fra quello che mi ha detto mio fratello? Calcolano praticamente il 75% di invalidità dalla data in cui tu hai preso l'invalidità, il 75% partono questi mesi che loro ti accodano fino ad arrivare a 5 anni. Evidentemente Gianni non li ha raggiunti e quindi la stanno respingendo, come ha detto mio fratello. Lui dice no, io li ho già raggiunti, e allora dimostraglielo che li hai raggiunti, cosa stai lì a cincischiare? Ma è quello che sono detto io, gli anni li devi fare, quindi c'è poco da la cosa è chiarissima, sono 2 mesi per ogni anno che hai di contribuzione dal momento in cui ti viene riconosciuta, ecco, quella è la parola magica, da quando ti vengono riconosciuto il diritto, perché è un diritto, allora inizia a scattare, perché poi se non le raggiungi è ovvio, te ne conteranno 3, 2, 1, quello che è. Avanti Gianni. Ma allora i conteggi me li hanno fatti, io li raggiungo, c'ho l'80% di invalidità, non è 74%, quindi mi hanno detto che a me mi spetta per legge che loro la tirano alle lunghe, sì, quando poi non li metti io l'avvocato, li mandi una lettera, ti dicono ci siamo sbagliati, cercano sempre il dubbio per uscirne fuori, capito? Quando si rendono conto che poi non ce la fanno più. Così mi ha spiegato lui, ha detto adesso andiamo col medico legale e vediamo se loro... Adesso non vado più all'INPS, adesso vado a fare la visita a Rizzetti. Ci sono io martedì mattina, mi devo andare a prendere il biglietto per il Paradi. 200 persone c'erano una volta che sono andato, a 3-5 di mattina vanno a fare la fila lì, una cosa allucinante, per carità di Dio. Adesso vado alle 4 del mattino, mi curico in macchina e mi metto avanti al cancello, se invece sono il primo, capito? Vabbè. Fatti fare bene i calcoli dalla CGL, Gianni, mica te lo dico come fratello, fatti fare bene i calcoli, perché se vai con la contributiva tu vai con i contributi che hai maturato, mi hai capito? E ti bollano in mano 1.100 euro. Lo so che è così, ma purtroppo io a lavorare non posso tornare nelle condizioni in cui sono, e tu ci hai mai visto come ti gioco, non è che ti sto dicendo cazzate. Quello che mi danno mi prendo, dove devo fare? Tanto tu lo sai benissimo che non prendo solo qui di sud, quindi mi va bene lo stesso. Sì, va bene già, dai, non ne parliamo qua. Non cantare vittoria, anche mio fratello diceva come stai dicendo tu. Ti fanno l'accumulo, pensione, ok? E decidono di scendertela e dartene una singola a puttidine, che non come stai dicendo tu. E c'è mio fratello che tu sei nero e lui è viola, hai capito? Perché se tu vedi mio fratello ti metti a piangere, a parte la tua patologia. Mio fratello era morto, amico, hai capito che era morto? Ha subito un'operazione alla spina dorsale, no? E tutto va ridotto. E tu ricorda Giovanni Modigliani, così è diventato mio fratello. Ci hanno buttato in ufficio lì all'Asia, a Corte Santa Maria, è disperato, rinchiuso dentro quella galera, lui è abituato a stare al porto, mio fratello è responsabile del puntiglio dell'Asia, hai capito? Quindi lascia perdere già, che ci sono in questa situazione, è la stessa cosa, mi hanno già fatto il calcolo a lui, ma no la CGL, no. Mi ha fatto un commercialista, il commercialista dell'Asi, tanto me, questa è la tua situazione, non ti fare prendere per il culo, questa è la tua situazione, stai attento, perché se vai così è una cosa, se vai così è un'altra, capito? Perché poi cosa fanno loro? Vedono che tu raggiungi e superi quel tanto e allora iniziano a abbassarti la pensione invalidità, e come li hanno già fatto, tra l'altro, capito? Come li hanno già fatto, comunque, sono cose tue, vedere tu, io già sono fuori da questi discorsi come ho detto a mio fratello, però mi dispiace che vada a finire in situazioni che hanno sempre ragione loro, capito? Perché così, vabbè. Avanti Nicola, sei già sceso dalla muraglia? No, sono ancora sulla muraglia cinese, non sarei sceso se prima non mi avessi salutato, quindi io saluto tutto il questo scendi Nicola, dai, scendi, non ti preoccupare, ci ha fatto piacere ascoltarti. Se hai bisogno di una mano per montare qualcosa, hai la mia disponibilità, ok? Non ci sono problemi, decidi quello che vuoi fare, poi ce lo fai sapere, è la mia disponibilità per darti una mano, ok? Ringraziamenti, saluti a tutto, a tutti, prego e a risentirci alla prossima, cambio fine per me. Ciao, dopo grigio, ciao, buona serata. Grazie, grazie, spengo fine. Ciao Nicola, buona serata, e come si dice in gergo CL, alle prossime. Alle prossime, grazie, grazie, fine per me. A proposito già, Massimiliano saluta Nicola, a proposito mio fratello c'ha 5 punti in più di te, l'85% c'ha, l'85%, 85%, perché quando l'ha investito il pulmino dello scolabus del comune, l'ha preso praticamente, lui è caduto, siccome era, non ce n'era allora casco, è caduto e ha battuto la parte destra a terra della faccia e c'è un occhio mezzo chiuso, l'hanno anche operato all'occhio, in più tu sei benissimo col diabete, è quasi geco, ogni 6 mesi sta cambiando occhiali, ogni 6 mesi, tutto va ridotto, tutto zoppo, non ce la fa più a camminare, una cosa guarda, brutta da vedere. Intanto continuano ad avere ragione loro, vabbè, riprendi Gianfranco. Sì, da noi è un po' diverso perché ovviamente da noi ad esempio ci sono anche i ciechi al centralino, eccetera, lo scivolo l'ho immediatamente riconosciuto perché ovviamente l'hanno fatto, ecco. Sono già andati 3, quindi l'è stato pienamente riconosciuto senza nessuna storia. E nel privato probabilmente fanno i furbi, perché forse non c'è neanche la continuità lavorativa come ci può essere nello Stato. Nello Stato si è sempre lì e poi le pensioni sono ben lontane dalle cifre che hai detto tu Claudio, o che dicevate. Adesso guarda, la pensione dello Stato, io ti posso dire, un altro ingegnere in servizio, proprio un ingegnere, siamo nell'ordine dei 1.400-1.500, quindi ti puoi immaginare cosa sono gli stipendi, quindi non puoi pretendere che la pensione sia, stiamo parlando di pensione di 1.000 euro, 1.100 al massimo, purtroppo è così. Però sulla questione dell'invalidità, siccome sono andati, l'invalidità non è una questione di 100, di 99, di 98, è una questione che quando supera il 74% deve essere riconosciuta, appunto e basta, perché è una commissione che te la riconosce, è lo Stato stesso che te la riconosce, quindi non ha senso rimandare uno che è già stato riconosciuto a rifare un'altra visita per essere riconosciuto ulteriormente. Capito? O se la fa comunque, credo che la faccia a Cagliari, però un collega è dovuto andare a Cagliari, stavo facendo studio e poi hanno detto vabbè, allora mettiamo tutto in mano magistrale, no, allora sì, vabbè, può andare, capito? Io riprendo io, scusate, vi saluto a tutti, dai, buona serata, ciao. Che ti dice Andelli? Devo fare cosa? Massimiliano non si sente addentrato nel discorso perché lui è ancora giovane, non ci pensa a queste cose. No, Massimiliano è Fendi Gozer, tanto poi già mi manda la foto, sempre buono di giornale, Fendi Mobili, ormai è diventato falegname. Ti ho capito, intanto mio fratello non è privato, tanto che lavora all'ASI, al consorzio ASI, quindi è un ente pubblico. Ma lui ha uno stipendio abbastanza alto, abbastanza per quello che fa, perché prende 1.600 euro al mese, più c'ha quasi 600 errotti di pensione invalidità, ok, quindi non ha grandi problemi. Il problema è che hanno fatto dei conti dove se lui va adesso a marzo del 2020 con quota 100 non le conviene, capito? dice non ci vado, non ci vado, rimango, rimango fino ad arrivare a quota 41, perché c'ha 39 anni di contributi, capito? E c'ha stipendio e pensione, però ne prendeva molto di più, gliel'hanno abbassata perché stava uscendo fuori binario, capito? Fuori reddito, uccidisi niente, comunque. Sono cose che a me non riguardano. Poi Gianfra, non è assolutamente vero, perché sono andato con la contributiva, te l'ho già spiegato, ok? Con quota 41, e raggiungo oltre 1.400 euro al mese, perché 1.100 euro, ti l'ho detto. Poi, no, non mi ha ascoltato. Io ti sto dicendo che attualmente i nostri stipendi oscillano tra 1.300, se parliamo di livelli normali, non dei dirigenti, e 1.500-1.600 al massimo. Quindi permetti che la pensione non può essere superiore allo stipendio di norma, soprattutto col contributivo. Quello è ovvio. Poi di 41 anche il collega che c'era a te, adesso lui sta raggiungendo i 41 anni e qualcosa di servizio, penso l'anno prossimo se ne andrà. Però ti posso assicurare che si deve fare bene i conti, capito? Perché non è, le pensioni della volta oramai non ci sono più, grazie alle persone che tu conosci e anche ai sindacati, su quello c'è ragione, che se facciamo quello che facciamo in Francia, in Italia, quelli stanno lamentando perché vanno a 64 anni. Io ti ho capito, però purtroppo è così, non è che ci puoi fare niente. Sì, il marito di Marcella, sì, me l'ha già detto che se ce la fa va in pensione quest'anno. Vabbè, io ho preso la palla al balzo, anche perché sono andato via 2 anni prima. Sono andato via 2 anni prima, capito? Però con un accordo, non certo sindacale, ma aziendale. Perciò, quello che io sto dicendo, bisogna stare molto attenti a questi passaggi truccati che fa il sindacato, capito? Perché il sindacato non ci ho mai creduto e continua a non crederci. Sono dei ladri, dei farabutti e gente che mangia alle spalle nostre, che ha sempre mangiato alle spalle nostre. Capito? Se tu consideri che a me il sindacato non mi serve, continuano a togliermi 16 euro, continuano a togliere 16 euro dalla mia retribuzione. Adesso gli ho fatto una raccomandata, ho ricevuto il ritorno, se mi mancano di nuovo le 16 euro li denuncio, perché a me il sindacato non me ne frega niente, io il sindacato ce l'avevo quando lavoravo, capito? Quindi automaticamente io avevo dato la disdetta quando sono andato via, continuano a togliermi 15, quasi 16 euro, capito? Senza gol, per fare che cosa? A me il sindacato non mi serve più, di cosa me devo difendere? Io gioco a ribido oramai, cosa me ne affutti del sindacato? Tu dici quando sono ladri. Riprendi Gianni. La disdetta devi fare, io per dire ho fatto la disdetta da uno, di sindacato me ne sono andato in un altro perché non mi andava bene. Sono andato in un altro sindacato dove sono seguito, dove ho amici, eccetera, eccetera. E ti dico che la persona che mi segue è una persona che ne capisce un bel, ma non poco, no, ne sa un bel. Gianni, cazzo, madonna santa del Cappinerio, a tutti i dini, è uno che ne sa un bel, va bene, anche Mazzo ne sapeva un bel della CGL, segretario regionale della funzione pubblica, e poi ci ha venduto alla Banona, a due citi, lascia perdere. Oh, di chi ti devo parlare? Di Paolo Dettori che abita nel mio palazzo, di chi ti devo parlare? Tu che ti parli del segretario regionale della CGL, di chi ti devo parlare? Li conosco tutti, dalla alla Z. E per conto mio, persone bravissime, ma sono tutti di ladri. Il sindacato è un mondo di ladri, hai capito? Il sindacato vende la gente per 2 lire. E siccome io ci sono passato, dove dalla mia busta paga ho perso 400 euro per colpa del CGL, come va a vendere il sindacato? Se uno che ne sa un bel, tienitelo perché ne sa un bel. Però stai attento, non ti fidare molto. Affidati a un commercialista, a uno che lavora sulla carta, non lavora con la mente. I sindacalisti travagliano con la mente e con i denari li lasciano. Infatti sono tutti dei grandi lavoratori poi, quando li vedi. Certo, Paolo Dettori era che tu vigile urbano, ma me la fotti nuda, faccio come con io, vigile urbano. Un cane mandrone è diventato segretario provinciale della CGL ed è cazzo 10 anni in aspettativa. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Non mi fate incazzare, io. Ma cani mandroni come ti dici, non comunque tutti grandissimi lavoratori, che poi quando finiscono il mandato se ne vanno in un certo partito che conosciamo tutti, no, a rifugiarsi, a diventare pure senatori magari. Infatti lo zio era senatore, hai capito? Si è portato un'aspettativa e difende lo Gravascio. Infatti la giudice policlinico dovevano assumere il 1 gennaio, ancora non hanno assunto. Cioè dovevano assumere entro il 31 dicembre, ancora non hanno assunto, grazie alla CGL. Ancora adesso li hanno messi tutti in disoccupazione speciale e poi fanno le selezioni, non come ti ha detto la CGL alla televisione, abbiamo vinto, abbiamo creato, abbiamo fatto, che hanno intervistato a lui. Ma cosa cazzo stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Infatti la giudice, ne ho due, tre io ne ho qua, del policlinico. Stamattina ne si due a Capovasso, ma per la mondetta, te perché non stai lavorando tu? No, ci hanno messo in disoccupazione. Come? Cazzo, vi dovevano assumere prima del 31 dicembre che hanno messo in disoccupazione. No, ci hanno messo in NASPI, adesso dobbiamo aspettare, poi ci sono le selezioni. A vedere che pigliano quelli che vogliono loro, no? E gli altri li mandano tutti a casa. Vai, è finita, vai. Quella è la più sicura. Io mi auguro per Gianni, perché è una persona che conosco e che so che cosa c'ha veramente, so cosa sta passando e cosa sta lottando, che le vada tutto bene. Solo quello ti posso augurare, Gianni, che ti vada tutto bene. Ma stai sempre attento, leggi bene quello che scrivono e stai attento a quello che dicono, perché sono veramente dei farabutti i sindacati. Mi sono iscritto in quel sindacato lì perché è un amico, capito? Di lui mi fido. Lui mi sta dando delle dritte e sto facendo convincere. Voglio vedere cosa ne esce fuori. Ehi, già. Chissà se le risini che hanno frutti banenti non frutti niente. Io ti ripeto, ribadisco, io la penso così. Poi mi auguro con tutto il cuore che ti vada tutto bene. Male non te ne sto, non te ne voglio nel modo più assoluto, però stai attento, perché io ci sono passato, ci sono passato, senza sapere nulla nemmeno, senza sapere, quando c'è stato il fallimento dell'ESAF, Gianfra, abbiamo fatto una riunione a Cagliari, alla direzione generale dell'ESAF, allora era via Le Trento, e c'era il dottor Maracini, che poi è entrato anche in politica, la nebula del Sado, no? Perché si è venduto allo sindacato Muruedo, la nebula del Sado, mi pare che sia ancora implicato in qualcosa, è arrivata una lettera dove c'era il passaggio diretto alla nuova arrivata, questa ESAF S.P.A., Editore S.P.A., non si è arrivata una società, vabbè, facciamo un'altra riunione, l'ESAF S.P.A. andava praticamente in concordato, non perché c'è stato poi fallimento, eccetera, in concordato, subentrava a Banoa, tranne Sassari che c'era la Sinos. Cazzo, quattro passaggi abbiamo dovuto fare. Al quarto passaggio ci hanno tolto il contratto FISE, che era quello ecologia e ambiente, quelli che hanno i netturbini, che un netturbino lavorando dalle 4 del mattino sino alle 11 del mattino, cazzo, piglia 1.600 euro. Io che ne prendevo 1.600, facendo il mio lavoro normale, 6 ore sempre 40, me l'hanno portato a 1.400 euro. Capito? A 1.400, neanche 1.380, la verità, a 1.380 euro. Per risalire a 1.600 mi sono dovuto fare un culo, ma un culo della Madonna, un culo della Madonna per risalire al mio stipendio reale, aumentando di grado, facendo cazzo di tutto e di più a Giovanni. Ma cosa da fare, so? Sì, ma quello è un altro ragionamento rispetto alla questione di Gianni. Poi io non so i quadernamenti, le loro cose, com'è, perché è tutto un casino. Io so comunque che riguarda quel ragionamento lì, dello, anche se il termine improprio, di scivolo di 5 anni, quello lì è una legge assodata dallo Stato, quindi se tu non fai la, nessuno può fare opposizione, se la fa corre il rischio di anche andare nei guai, perché se fa una denuncia per omissione dati d'ufficio, perché quella è tutta roba amministrativa, quindi non credo che nessuno sia così fatto da rischiare. Poi sulle altre cose che si chiedono, di lì è tutto un bordello, che quattro ne bastano, anche perché tra poco ricambierà tutto di nuovo, quindi sarà un macello veramente. Di sicuro è che se uno non si muove insomma, se lo possono fregare lo fregano, e questo in qualunque cosa oltre che sulle pensioni. Ehi, possiamo stare sia domani parlando, ti ho detto io ci sono in mezzo perché mio fratello è nella stessa situazione di Gianni, precisa identica, c'ha la pensione di validità e sta ancora lavorando. Gianni l'hanno fatto non idoneo più al lavoro, quindi a casa, ha un accordo aziendale e quindi c'è la mobilità di mezzo, perché sicuramente la contribuzione dell'azienda, ma loro la recuperano dall'INPS per la mobilità, c'è tutto un giro di queste cose, no? Fino a quando lui chiaramente avrà diritto di questo scivolo. Ma è una cosa pazzesca, capito? È una cosa pazzesca, veramente una cosa indescrivibile. Questo perché? Perché, ma tu te li immagini che hanno dato le pensioni in ritardo, 2 giorni in ritardo, ne ho pagate oggi, non ieri Gianni, 2 giorni in ritardo perché c'era un problema tecnico, ma di cosa siamo provvedendo? Ma perché non dice la verità? È perché quel giorno delle pensioni tu non avevi fondi per pagarli, perché prima delle pensioni hanno pagato il reddito di cittadinanza, a questi parassiti, ma di cosa siamo provvedendo? Cattolo che ha lavorato 40 anni deve percepire la pensione in ritardo perché tu devi dare i soldi a questi parassiti che non fanno un cazzo. No, lì stai sbagliando perché non li hanno pagati prima, Claudio, perché io ho un amico che lo ritira e non ne ha trovato, ed ha ritirato il 3. Non erano disponibili Gianni, ma sono stati erogati dallo Stato, prima il reddito di cittadinanza delle pensioni, a tutti i dini, da persone certe, persone che lavorano in quel settore. Tranquillo, non erano disponibili per poterli prendere, cioè tu andavi e non c'aveva la disponibilità in banca, ma sono stati erogati prima quei soldi delle pensioni, si devono vergognare. È inutile, perché se uno c'ha qualcosa da pagare o non c'ha soldi a fine mese, il problema è lo stesso, quello che c'è tu c'hanno anche quelli del reddito di cittadinanza, che poi non sono tutti così, dai. Non sono tutti mandroni. Io, la verità, chi prendeva il reddito di cittadinanza gli avrei fatto fare qualche lavoretto, tipo pulire i buchi dei giardini, le erbacce che crescono, fargli fare questi lavoretti così, almeno per guadagnarci quello che prendo. Già, non voglio discriminare nessuno, certo che hai ragione, non sono tutti uguali, ma c'è gente che non ha mai fatto niente in vita sua, ok, e che ha aspettato quello proprio per poter fare cose al di fuori della normalità. È giusto quello che stai dicendo, perfettamente. A chi spetta è giusto che lo abbia, a chi è sotto la soglia della povertà è giusto che ce l'abbia, ok, uno che non ha lavoro, che è in difficoltà è giusto che ce l'abbia, ma è anche uno che ha lavorato, no? In Ternosse, nel nostro amico comune che tu ben conosci, ha lavorato, ha sempre lavorato, ed è giusto che ce l'abbia, perché è sotto quella soglia. Ma c'è gente che lascia perdere già, gente che proprio secondo me non l'aspetta, eppure gliela vanno, ma infatti, tu pensa, mia madre non ne ha bisogno, grazie a Dio, sta molto, ma molto, molto, sottolineo molto bene, non manco ci va a prendere la pensione, capito? Però sto dicendo, c'è molta gente, come hai detto tu, che aspetta il primo del mese perché deve pagare la luce, se non gliela attaccano, oppure deve pagare l'affitto, e l'ha presa con 3 giorni in ritardo, non va bene. Lo Stato si deve mettere in testa che chi ha lavorato ed è in pensione, o perché è andata perché ha raggiunto l'età, o perché è andata sempre in pensione dello Stato, tu me la devi dare ogni primo del mese, punto e basta. Che a me me l'ha fatto il 3 invece che il primo, la stessa cosa. Io ho capito, però non va bene. Io non sono d'accordo a queste cose. Devono cercare di bilanciare meglio le cose. E ancora non è successo niente. Sembra che ci sia ancora qualche cambiamento sulle pensioni. E che sta cosa me la bongare da rifina la gara Pronove. Anche se mi ne abugari sono cazzi da cagare davvero. A qualcuno le faccio saltare la testa, però io me ne vado a bancare, che sto molto meglio. Addirittura. Hai visto in Francia e in Spagna che cosa fanno quando succedono queste cose? Fanno guerra civile. E sì, quando ottengono le cose che vogliono, non mollano. Mi dicono che per andare lì ci vogliono le raccomandazioni. Con la durata dei processi, con il rischio di finire a bancali dopo 20 anni, quando sei già sottoterra. Sì, esce chi? No, no, c'è il comandante di mancare, che è un mio carissimo amico, quindi non c'è problema. Non ce n'è problema, comandante alle guardie, però non direttore, ma non so chi è. Vabbè, l'ispettore capo che era a Isiri. Va bene, comunque, è così e basta, non c'è niente da fare. È una vergogna totale, per chi prende l'invalidità, purtroppo è colpa mia, sono diventato invalido. Penso che Gianni non faccia salti di gioia, no? Come li faceva prima, perché è una persona sana, una persona tranquilla, faceva di tutto e di più, sportivo in tutti i suoi hobby. Se è diventato così, purtroppo non è colpa sua, è come lui tanti altri, perché mio fratello stava andando per i cazzi suoi, è il pulmino dello Scrabus a Porto Torres, e era missato, non ha rispettato l'incrocio, l'ha preso in pieno, l'ha guastato, da quell'incidente mio fratello, a parte il diabete che aveva, guasto, sembra Giovanni Modigliani un po' più alto e più grosso, vabbè, è meno grosso di me, ma è un po' più alto. Poi Giovanni Modigliani, se lo vede la rete, è tutto un godidoglio. Giovanni Modigliani mi pare che aveva preso la scossa elettrica. Giovanni Modigliani ha preso la scossa elettrica anche da poco. Ha saputo che è morto l'altro figlio, sì. Un altro? Sì. Vabbè, però Verdose, no, Tergo, Giovanni abita a Tergo, che era a casa Tergo dei soci di lei, capito? Io l'ho saputo che stavo ancora lavorando, non ce lo vedo, non serve più, c'aveva un edicolo a Tergo, ha mollato tutto, e sembra un uomo di 80 anni, non ce li ha 80, ma guardandolo e fa anche pena, poverino, con i pareti appigliati, uno un incidente e l'altro così, e vabbè. Quello è brutto, io me lo ricordo ancora con la sua 600 plenuragica, sempre spingendola quella macchina. Oh Claudio, siccome la settimana scorsa ho rivisto una persona che tu conosci bene, adesso c'ha tutti i capelli bianchi, no, il musicista tra la Civita, lo ricordi? Come ci siamo ricordati? Ma quello non era diventato la Di Mattore? Tore? Sì. Ma cosa la radiamatore? Ma stai scherzando? Dal Monte, mi. Fine Monte. Sì, già ho capito, sì. Ho capito che stai parlando, si fa la giuga, dice che era andata da l'esame di Mattore, ci hanno visto un paio di anni fa. Ho detto complimenti, sono contento, io ero già andato via a Fia Pascoli perché appunto non ti ho più visto in giro qua in zona, non siamo più via Pascoli, sono tornato su Carbonazzi, e mi aveva detto questa cosa. Vabbè. E ognuno vive di fantascienza, e cosa vuoi farci? Vabbè, comunque, i discorsi sono belli che fatti, ok, minchia siamo a 50 watt, forse ho toccato, non me lo può salvare lui, ma serva troppa potenza, va bene ragazzi, dai, io vado a portare il cane, se ci siete a dopo, chiamami verso quell'ora lì, dai, se passi qua sotto mi lasci quella roba, così già mi deve portare i radiali in fibra, controllo se sono efficienti, se si possono montare, se si possono pulire, se si può dare la ceramacca, va bene, se no montiamo quelli del lavatore a turbo in alluminio. Grazie Gianfranco, vabbè dai, vediamo un po'. vediamo se... speriamo che vadano bene quelli, perché quelli alle cornacchie non gli fanno niente, non si spezzano qui. Si, quando ha avuto quelli non si sono spezzati. Li avevo tutti perché erano praticamente vetrificati, tutti per questo. Quelli della vanta va turbo non si spezzano, non si spezzano. A me non mi sono mai spezzati, li ho persi già, ne sono caduti da soli. Sai perché? Perché la piastra della Mantova Turbo, come ti ha già spiegato Giulio l'altra volta, giocavano all'interno con, deve essere al caldo, al freddo, non lo so, comunque il sistema non era piacevole. Qui ci sono dei bellissimi radiali perché sono vuoti ma sono molto grossi e poi sono originali dell'antenna, capito? Ed entrano 5 cm dentro il piantone, entrano 5 cm. E quindi sono ben fissati e ben robusti, non ti preoccupare. Se però sono efficienti quelli che mi dà Gianfranco in fibra, io chiaramente adesso li controllo domani, provo a vedere, se sono vetrificati ti rilampo, non me ne vuoto nulla. Se però sono efficienti che posso dargli una pulitina e dargli una passata di quella cera, allora va bene, capito? Mettiamo quelli, se no si montano 4 di quelli che ho io della Mantova Turbo, che sono originali, capito? Ahia, cara gara, va bene, ok. Certo, devo avvisare quello della, come si chiama, il tipo che abita nella mansarda lì. Perché magari sentono rumore si preoccupa che mi ha furato, già te l'ho detto, lo avviso, gli dico che dobbiamo fare dei lavori e non preoccuparsi se sentono rumori che siamo venuti. Ma guarda, puoi sentire rumori passi, se no non dobbiamo battere il tubo, e quando tolgo la fascetta con un po' di svitol, mantenendo tu una parte io girando dall'altra, molla, a noi ci serve solo quel pezzo lì, boh, poi l'altro lo puoi mettere in terra perché non dobbiamo fare nessun rumore, perciò nel modo più assoluto. E viene anche molto bella, guarda che qua non ci sta, se non ti avrei montato i radiali forse ci sta, boh. Se riesco a farci stare ti monto i radiali e ti faccio la foto, ma sicuramente è bella, luce da luce. Poi sono 4 radiali in alluminio belli da 1 metro e rotti, sono proprio la misura sua, con i tappini originali. Viene una bella antenna, viene una bellissima antenna. Croce tra Mantova 5 e Mantova 1? No, quella è una Mantova 1 con i radiali in alluminio, 4 radiali, una Mantova 1, non c'è nessun problema. Se poi ti ripeto, si possono mettere i radiali in fibra, esce la Mantova 1 originale al 100%. Vai Gianfranco e poi chiudo, vai. Ti volevo chiedere sempre di quella cosa che ti ho detto, no? Ma quanti anni ha? È più grande, è molto più grande di noi, perché ha tutti i capelli bianchi, ho visto, c'è anche rimpicciolito in altezza, mi pare. È molto più grande, è vero? Molto più grande, a me me ne frega almeno 15 anni, a te forse qualcosa in meno, mica c'ha più di 70 anni, forse ne avrà 75, 76, non lo so. Perché quando lo vedo è sempre in compagnia di un altro signore, molto giovane, ci avrà una quarantina d'anni, credo, forse anche di meno. Vabbè, infatti mi meravigliava perché insomma era già grande quando noi eravamo piccini, quindi. Io lo conosco questo qua, Clark. Sì, lo conosci. Paga. Sto pensando chi è. Ehi, tacchi e suole, dai. Se non sapere né leggere né scrivere, te lo sciopè. Ah, Cappa, non sapevo chi era. Io sono da un bel che non lo vedo, ho andato a abitare la via Grazia dell'Etna, non lo vedo più, non so dove abiti adesso, però non l'ho più visto. A Lippunti abita, nelle case popolari di Lippunti, quella a schiera, ha fatto cambio con uno. Ecco, ho capito, vabbè. Adesso anche quelle dove abitava lui le stanno ripristinando, le stanno già consegnando. Ma c'è un sacco di cose, mi sto facendo lupo. Un sacco di problemi, dovevano consegnare già all'inizio di quest'estate, alla fine di quest'estate, invece ancora non l'ho consegnato. Non so che problemi ci siano, evidentemente i lavori che sono stati fatti non sono stati fatti regolarmente, non so, vabbè, comunque, sì, lui ha fatto cambio, ne avete. Texas, passeggiando a destra e a sinistra, ah Giaffra, a cercare qualcosa a magna magna. Tanto sei male. No, tornando lì, faccio le antenne. Gianni, come mai non metti una Game Master? Se messa bene, va molto bene, e dà molto, molto meno seccature di una manta, che è eccellente sicuramente, però è molto pesante. Allora io la volevo mettere la Game Master, poi me l'hanno sconsigliato perché dice che si spezza la base, che se prende molto vento si spacca. No, Gianfra, dove lui gliel'hanno sconsigliato, chi l'ha sconsigliato sa quello che dice sicuramente. È un punto, guarda, troppo strategico per il maestrale, Gianfra. Tu lo prendi un po' meno rispetto a lui. Un po' meno rispetto a lui, però lì dove lui è una cosa pazzesca. Io sono andato a sistemare la spirale dell'antenna, sono andato via da casa, sono sceso in moto, il vento non ce n'era, sono arrivato lì e c'era un venticello, cioè si sentiva già l'aria del mare, che è molto vicino al mare, Gianni, non conviene. Ma guarda, la manta va a lui, è eccezionale, perché è un'antenna robusta, è bassa, non è, però resiste molto, secondo me resiste molto, molto al vento, ed è l'unica antenna che lui li può montare, Gianfra. Sono 20 km orari resiste. Quanto resiste? 120 km orari. Ma cosa, la Game Master? No, da vanto. Ma che 20 km orari di vento, no, ci sono tutti i giorni. Qua abbiamo raggiunto punte di 100 quando c'era quel vento forte. Era vedevi ballare, sembrava che se ne volesse andare a spasso, perché essendo molto leggera si piega anche. Però non si è spezzata. Si spezza sicuramente, come tutte le antenne di quel tipo, penso, quando viene ancorata in maniera che non c'è oscillazione, tutta la potenza del vento la prende, ma proprio tutta. Vuol dire Sandro Tigre, il portatore, se gliel'ha spezzata il vento. Dipende da come è piazzata, lo ripeto io, guarda, di retroresina c'ho anche le 2500, com'era? 510, 511, non me ne ammento più. Sono tutte in retroresina, anche abbastanza delicate, il vento non mi ha mai fatto niente. È vero che le capotta, ma anche storto un tubo d'almine, che se uno lo vede non ci crede. Il tubo d'acciaio, ad esempio, acciaio inox, ma acciaia, che utilizzavo per il finale, l'ho potuto buttare via, è solo d'acciaio, di nuovo l'acciaio si fa spezzare e non piegare, ma li ha piegati, ma devi vedere che pieghe belle che mi ha fatto, capito? Però l'antenna nulla. Ascolta, ma la Game Master come ricezione e trasmissione com'è? Guarda, a me mi ha meravigliato personalmente, perché per la larghezza di banda che ha, che è notevole, perché va da 25 a 30 quasi, devo dire che è formidabile, poco QRM, ricezione splendida. Stazionarie? Guarda, niente, io le misuro con l'apparato professionale, niente, adesso lo strumento professionale che è il della Daiwa, quello grande, mi segna, non riesco a muovere la lancetta, ecco. Allora buono, no, ma già mi si muove quando uno e uno c'ho, però bisogna vedere. Bisogna vedere se la mia zona va bene, capito? Quello è a zone, se le zone sono coperte, sono più riparate, va bene, ma se non sono riparate come zone è l'occhio, usare un'antenna così che magari ti si spezza e costa 200 euro, e quello è il problema. Insomma, 200 non ci arriva, però a 150 sì, da qualche parte 110, 114. Però, diciamo, ripeto, le antenne di quel tipo devono un po' oscillare, perché se non oscillano, se le dai in zone ventose, il carico tutto sull'antenna, è chiaro, chiaro, potrebbe anche aspettare. Questa che è originale, poi sai, ci sono anche quelle taroccate, come anche quelle della amatoriale, ce ne sono taroccate che si rompevano al primo venticello. Però se metti le Diamond originali, te ne accorgi subito che è tutta una raccupa. Quindi bisogna stare attenti anche a quello, perché c'è molta contraffazione in giro. Comunque, io devo dire, fino adesso ce l'ho già più, forse saranno 2 anni, forse anche qualcosa in più. Si è preso dei venti che, ripeto, è riuscito a piegarmi il tubo di marcegaglia d'acciaio grosso. Però l'ha piegato, le antenne invece sono rimaste dove erano, meno male, piegate, ma sono rimaste dove erano. Tu Gianfra, ne hai tiranti dei tubi? No, solo su un tratto della dove c'era Game Master, perché il ponteggio è basso, io utilizzo i ponteggi a posto dei calici che sono più lavorabili, e di lì la oscilla un pochino, è tirantata con solo 2 tiranti, ma giusto per non, perché c'è anche il tirante, fa anche da gomito, però non mi serve partire dall'osso perché si curica l'antenna, perché è molto alta, quindi bisogna utilizzare questi accorgimenti. Poi una volta che sale rimane il tirante attaccato, che fa anche da tirante, ma le altre, ad esempio quelle di sopra, quelle che sono molto più alte anche della Game Master, quelle lì tirati non ne hanno in pratica. Oh, io sto andando a portare il cane, sono 8:10 comunque, ci sentiamo dopo, se ci siete, se no a domani. Se lo buttate anche voi stesso. Okay. Io sono stato sempre per fare che tirati ci vogliono, pure ognuno fa ciò che vuole, per essere più sicuri, a parte vabbè che tu sei a casa tua e basta, se fa danno lo fa a casa tua, sarà sempre un dispiacere, però, ma se lo fa nel palazzo che cade giù, che ci sono tutte le macchine parcheggiate nel posto macchina, è un danno di base. Infatti io avevo fatto uno stratagemma che mi è stato utile quando c'era stato quella di, cos'era, una tromba d'aria, quella famosa, ha aspettato la Mantova, però all'interno, io prendendo, perché ero proprio in quella situazione in condominio, avevo messo un bel pezzo di spago, quindi si è aspettata, però è rimasta lì a penzoloni a sbattere, però non è caduta, non ha fatto danno a nessuno, ecco. Lo stesso, i radiali erano collegati con della lenza di quella grossa, se si staccavano non cadevano giù, quindi era una cosa comunque sicura. Con la Game Master, non avendo radiali, il problema non c'è. Al massimo potresti mettere uno spago da su a giù e nastrarlo, ecco, se proprio vuoi la certezza che non danneggi nessuno. La mia c'è il tirante, e se mi rompo le scatole ci metto anche la lenza, quella per grunghi, come ho fatto con le altre cose. Se dice che tengono così, Claudio, lo lascio così. Vai tranquillo, io lenza non ne ho mai usato, ti ho detto, a me quelli della Mantova Turbo ne sono caduti da soli, perché la piastra non reggeva, non tringe, è un'antenna fatta da Garda, che ne dica Giulio, a me quell'antenna non mi è mai piaciuta. Questi sono radiali a velo, belli, tosti, non pieni, perché pieni ti piega il piantone, ti rovina nuovo il piantone. Invece questi entrano bene, hanno le sue viti, tutto regolare, non devi vulcanizzare nulla. Il radiale deve essere libero, un pochino di grasso nelle viti e boh, vai tranquillo, fidati di quello che stai dicendo io, che le antenne ne ho piazzato a centinaia e non mi dicevo mai che aggiungi il radiale in alluminio a me. Esagerato! Yeah. Buonasera, aspetta che abbassiamo, com'è? Mi sembravi coso, Gigi Vulcano, eh? La sua! Ciao, buonasera a tutti! Ciao, io la conosco quella radio, molto molto bene, è quella che ha dato a Walter. Va bene, torna a portare il cane, dai, ci sentiamo dopo, se ci siete, se no le broscimine. Riprendi Tino, ci dovrebbe essere Gianfranco ancora per poco, se non va a mangiare, Gianni, dai, a dopo, ciao! ciao Claudio, buona passeggiata, dai. Ciao Tino, avanti. Ciao Gianni, ciao Gianfranco, non so chi ci sei perché io sono appena entrato e ho dato già dell'esagerato a Claudio. Sì, vabbè, è un modo di dire, centinaia, magari sarà qualcuno in meno, però mi avrà piazzato sicuramente. E allora Tino, Girello aerei. Io penso che siano più di 100 anche, perché se tu così ho iniziato a piazzare l'antenna del baracchino da quando ero a Porto Torres, forse a 100 ci sono già arrivato. Esagerato sono esagerato, io faccio le cose fatte bene. No, tu fai le cose fatte in grande, che è diverso. Cazzo, forse ho preso mio padrino allora. Andare, sono qua, dai. Si è fatta già. Cosa? Niente, non abbiamo fatto niente ancora sto elaborando, domani Gianfranco riporta il radiale, stiamo ancora elaborando, no, mercoledì la piazziamo direttamente, perché poi è festa, lunedì deve fare roba, martedì è festa, mercoledì la piazziamo che sono tutti al lavoro, così non mi rompono le scatole, invece se la piazza in giorni dove non lavorano, ci sono tutti quanti, alza uno, alza l'altro, cosa stai facendo, cosa stai facendo, ui. Gianni, l'artifice di tutto. È vero, ci sia. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Natalia. Oia. E allora. Mi sono fatto una bella drumita oggi. Vale, mando un attimo. Ciao a te. Subito fino a tardi perché ero stanco, mi sono stancato troppo. Scusate, ne approfitto per andare via, mi stanno chiamando. Buonasera a tutti, ciao Natalino, ciao l'altro sono io, ciao Gianni, ciao Claudio. Ci sentiamo, bye bye. Ciao Gianfra, ci sentiamo, dai, buona continuazione di serata. Avanti Natalino, con la buonasera. Ciao Gianfra, buon proseguo, buon tutto, avanti Tino. Ciao Gianfra, ciao, buona serata, tante cose belle, dai, tanti auguri ancora. Vai avanti Gianni. Oh, ma lo so scelto, che ci sei? Oh. Eugenio. E allora Eugenio, buonasera. Buonasera. Non ci fossi io, guarda, fatti entrare sempre, bobo. Poi a fine mese vengo a prendermi la quota. Aspettate, ciao Gino, c'è anche Giulio se non mi sbaglio. Giulio, ci sei? Sì, ci sono, ciao Tino. A tu l'hai molto, a tutti l'hai molto. Siamo di via Campano, siamo tutti in Chivi. Fabula. Va bene, ciao. Ciao Eugenio, ciao Gianni. Salutone a tutti e tre. A che torello c'è? Boh, non lo so. Fabula, riprende ancora, ti va. Sono piccolino con questa, cosa vuoi? Ci fa rispettare. Va bene, Gianni aveva questo con noi il giro, se mi sbaglio. Vai Gianni. Io? Cambio. Come mai? Cosa è successo? È come ti balla l'antenna a te probabilmente. Ti sto eccitando perché è un apparecchio che dà dei picchi positivi. Ah, ok, va bene, dai. Ragazzi, sono stato a salutare, ci sentiamo, sono stato a lavoro io e sono stanco. Che va sempre domani. Ci sentiamo. Aspetta. Ciao a tutti, abbiamo. Ciao Eugenio, buonanotte. Aspetta Eugenio, dacci un controllo un attimino che sto usando un altro apparato, fa favore. Guarda questo segnale per cortesia. Ehi, sì, qua sei Santiago Nove, perfetto, fisso. E radio Fabio Super 5. A condotto bene, guarda bene. Ah, te la vista ancora mi accompagna bene. Dalle mie parti sei Santiago Nove, fisso. Perfetto, è lo stesso segnale il corso di Super Claudio Spaghiero. A vedere se cambiava, no? Avete parlato 18. Se mi fa parlare Gianni, ho detto, è aumentato da 9 a? Quasi 9,5, da 9,5, dai. Da 9 a 9,5. Togliamo questo eco giusto per vedere un pochino. Ok, vai Gianni. Dalla mio controllo Eugenio, vedete come ti sta arrivando, cambi. Ciao ragazzi, ciao. Adesso che devi dare a me Gianni, ne aspetta, dimmi quando ti sta arrivando. Sì, adesso uguale, 9.5 come tutte le volte, lo stai cuscillando. Adesso 9.5 come tutte le volte. Va bene. Allora mi posso andare a mangiare, sì. Eppure buon appetito. Buona carica. Ciao. Buonasera, ciao. Sì, se vuoi andare a mangiare, ciao. Giulio, riprendi. Ok, ciao Eugenio, ci sentiamo. 9.25 mi si è arrivato, sì, poco fa. Vabbè. Gianni, 9.18. Prima di aumentare la potenza, Gianni era 9.5 appena passato, però quando parla oscilla molto e va anche a oltre 9.10, 9.12, quando era 9.5. Segnali fortissimi comunque, tutti uno meglio dell'altro. Va benissimo, Gianni, comunque poc'anzi stavo seguendo quando stavate parlando della Game Master. La Game Master è calcolata come potenza di vento 160 km all'ora, per cui sta tranquillo, non si tronca, tutti dinni. E quella è la più semplice da piazzare, la buona, non devi regolare né stazionare né nulla, la metti e va bene così. È stazionare, ma soprattutto ti vuoi, ma non hai capito che il discorso è anche quello, soprattutto non ti fai TV, nemmeno se la metti attaccata all'antenna TV, è quello, poi puoi mettere la mano vicino all'antenna TV e poi vedrai, nonostante il digitale terrestre, puoi vedere la cena. Ce l'ho a fianco all'antenna TV, mia amato, ma non ho fatto TVI. C'ero proprio a fianco. La supera, penso di mezzo metro radiale, la supera. Anche la mia, Giulio, anche la mia, è attaccata all'antenna TV. Anzi, stavo quasi per mettere l'antenna TV, dovevo l'antenna della mantova. Quello sì. Ed è già una grande cosa, questa. Però c'è da stare tranquillo, perché i radiali si sta sempre un effetto fanno, ce l'hanno, non è che non ce lo possono avere. Come ti stava dicendo Gianfranco, per me la canna da pesca è indistruttibile, basta saper piazzare, tu dove ci sono le giunture ci metti un pezzo di rinforzo di tubo da elettricisti, quelli degli impianti industriali, quelli di quei tubi rigidi, ci sono delle varie sezioni, sicché puoi mettere, e costano mi sembra 60 centesimi ogni 2 metri, ti puoi immaginare, prendi a ogni sezione, te prendi 3-4 sezioni e hai speso 2 euro per dire, no? E tagli il pezzo e te lo metti nel rinforzo dove c'è il collegamento, perché in effetti la canna da pesca si sa com'è, però se tu gli metti un rinforzo lì di 30-40 centimetri e sta tranquillo, non si rompe, tranquillo. A me piace quell'antenna, mi piace quella, è anche la Tornado, quella dell'Assirio, mi stava piacendo molto. Anche io ero deciso fra queste due antenne, tra l'Assirio della Tornado e la Tornado dell'Assirio e il coso, la Game Master. Ero indeciso su questi due tipi di antenne, o una o l'altra, adesso vedo. Avanti Natalino. Non è. Sto per andare a cena, dai, ci sentiamo, correti per me, salutoni a tutti, dai. Ciao Natalino, dai, buona carica, ci sentiamo. Avanti Marco Condor, che abbiamo sentito che è sgabuzzato, esci fuori dall'uscio. Sì, buonasera a tutti. No, dicevo, la Tornado già è di tipo leggero, è quasi come questa. Cioè se proprio devi cambiarla vai a migliorare, non andare a peggiorare. Buonasera. Ciao Marco, ciao Natali, buona carica, ciao Marco. Non sembra di che sia fina come antenna. No, vabbè, dillo Marco, se non ti ho messo lottato, dillo. gli è mancata la luce. E vabbè, tanto al massimo posso salutare Natalino. Ciao Natalino, se sei ancora all'ascolto. E vabbè. Sì, lo so, è bella, secondo me è bella quella che stai dicendo tu, Gianni. Anche perché c'è una raggiera che regge tutti i radiali, quello sì. Però è sempre un'antenna molto ingombrante, OOI, dalla PD. Vabbè, comunque ognuno fa quello che crede, ci mancherebbe altro. Che poi costa né più né meno quanto costa la Raymaster. La Raymaster cosa? 150 euro, 160 in certi posti. E in certi altri anche 170 può essere. Però c'è il negozio dove te la danno per 150. Tu mi dirai, mai una danna da becca? Sì, mai un pezzo di filo che non ti darà mai fastidio, mai. Ossia, si deve pagare le radiali. E come fa a cambiare le radiali se non ce ne sono? Non succede niente, anche se si dovesse spezzare, siccome il filo passa dentro, rimane appeso lo filo, e dunque lo puoi sempre recuperare. Ehi, voglia. Vabbè, già, fai come credi. Per il momento adesso mettiamo a posto questa qua, sin quando dura, poi mi sa che me la ordino direttamente e me la tengo, poi quando al momento opportuno la piazzo. Anche questa è una buona idea, certo. Poi vuoi fare esperienza? E ti compagni una candela pecca, te la fai come ho fatto io, così almeno ti rendi conto quanto regge e quanto non può reggere. Te ne rendi conto, non spendi niente, hai speso 4 lire, hai speso, o meglio 4 euro. Per cui poi l'antenna nel frattempo mi sta dicendo ce l'hai, certo, ce l'hai, tieni quella. Però soprattutto nelle condizioni in cui ti trovi tu, che non puoi salire sul tetto, eccetera. È solo questo del tempo, ci dovrai salire di nuovo, guarda. Te lo posso garantire che ci dovrai salire di nuovo, perché prima o poi intanto il radiante te li butta giù, i piccioni, eccetera. Anche se sono robusti, oggi i radiali, almeno quelli della 94 tubo sono robusti, sono da 10 di diametro, sono vuoti, frusciano di una maravilla, la notte per carità, un concerto sinfonico che non ti lascia dormire, almeno qua succede da me, poi da te magari non lo senti, è un altro discorso. Vabbè, riprendi e fai girare, vai. All'interno dei ghisci dell'attico, non voglio problemi. Va bene, dai, Tino, avanti. A te il Michelino. No, vabbè, io ho risolto. Vabbè, essendo in campagna magari è diverso. Magari come la situazione di Giulio disturbava lui e magari anche è avvicinato, se fischia non fischiano. Qua anche se fischia le facciamo fischiare, tanto nel piano di sopra a me non dà fastidio. Sono contento di averla sistemata. Va bene meglio, è tornata, nuova, quindi, anche perché non so se se ne trovano poi così tanti di queste 91 ormai. Se stanno facendo l'alluminio, si parlava tra di noi, no? L'alluminio di una volta non è più quello di adesso, capito? Quindi è molto più fino, meno resistente tutto quanto. Adesso lo stanno facendo all'imbrencio. C'è una persona che conosciamo noi che però fabbrica delle antenne radiomatoriali e ha un alluminio molto più spesso di questo che stanno utilizzando. Forse infatti era un punto di domanda anche a chiedere a lui, ma poi abbiamo risolto. E va bene così, dai. Tu hai rifatto la Mantova, hai rimesso la Mantova 1 in sesto? Tutta lucidata, pulita, tagliata un pezzo, rimesso nuovo, perché in una parte non sono riuscito a toglierla, anche se aveva le guancette, era talmente ossidata perché era solo con un appresolante, Gianni, non c'era vulcanizzante, quindi lì ha fatto danno. Ho dovuto tagliarlo e riportarlo alla misura sua con un altro tubo, sempre dell'antenna della stessa Mantova, riportarlo alla misura originale, capito? No, ci vuole il vulcanizzante, c'è poco da fare. Io lo metto anche nel PL sempre e non è sbagliato, perché una volta che c'è il vulcanizzante devo pure il burro grasso sopra e non c'è problema, ma il vulcanizzante intanto te lo ripara e il grasso si scioglie col caldo, diventa urio e ti ripara. Non sono tanto d'accordo su quello, perché dipende che grasso metti e non è vero, rimane come lo metti, come lasci lo metti, e di grasso ne ho utilizzato, lascia perdere. Vabbè, Giulio. Ok, questo del PL secondo me non è proprio necessario, perché il PL di ottone, sia quello che si è attaccato all'antenna, sia quello che ci ha vinti pure, dunque non si arrugginisce e non si rovina, quello non è proprio il caso, secondo me. Ecco, anche quello ad esempio, non deve pensare a niente già, non deve mettere grasso, non deve mettere un altro vulcanizzante, non deve pure nulla, è un parte del virus, e ti sto dicendo, ho fatto che poi è anche più sicura a me per quanto riguarda la tensione elettrostatica, oltretutto, no? Perché uno aveva un pezzettino di fino con lì, basta una acqua grande, ragazzi, di 3 metri, perché ogni radiale è 1,60 m. Perché ti puoi immaginare, è diverso, no? Vabbè, ma a parte quello, poi anche esteticamente non dà nell'occhio, perché invece, quando vedono questa cosa grande, mamma mia, i clienti, un po' con il soffitticamente, magari la televisione è rifettoso e poi se la prende con l'antenna del baracchino, se la prende. Invece quella, che dove vedi, è un fuscello, è una canna da pesca, si piega, perché quando c'è il vento si piega, ma non è che si piega nel spettacolo, si diventa molto, ma molto meno di quando proprio pesci un pesce, però, mi tanto per darti un'idea. Però stai tranquillo che non avrai problemi mai. Vabbè, comunque, riprendi già. Orientato. Quello che stavo ascoltando, avanti Claudio. No, non stavo ascoltando niente, ho solo fatto il volume adesso e vi ho detto che sono rientrato. Ciao Giulio. Ciao qua, ciao. Io stavo ascoltando poc'anzi quando stavo parlando Gianfranco, che gli ha elencato le caratteristiche dell'antenna, della Game Master, per le condizioni in cui si trova adesso Gianni. Sì, vabbè, a parte il fatto che adesso l'antenna ce l'ha, sta mettendo a posto quella, vabbè, però se la deve comprare nuova, per nuova e nuova io le consiglio meglio la Game Master, intanto perché se resiste la lancia torra. E poi perché nelle condizioni in cui si trova lui, pesa 2 kg, la può piazzare da solo, non ha nessun problema, non ha bisogno di aiuto di nessuno, e va benissimo, sono più che sicuro, perché la canna da pesca si piega, oscilla, non si piega, oscilla, che è diverso, sono due cose molto differenti, però non si spezza, si tratta solo di quando si piazza, di mettere un riposto dove ci sono tutte le riduzioni nel tubo, sono 4 tubi mi sembra, 3 o 4 tubi, sono la canale, carattere 4 tubi sono alti 1 metro, infatti è alto 1 metro e poi allungata diventa 6,90 metri, una cosa del genere, più o meno, se che sono 4 tubi da 1 metro. Mi domani vi faccio la fotografia, che ne ho un'altra io qua e ti faccio vedere com'è. E poi ti rendi conto, intanto è abbastanza robusta come fibra, per cui va benissimo. E anche se si dovesse spezzare, non succede niente, perché il filo, essendo dentro, collegato su dalla punta, si può spezzare, ammesso che si spezzi, che non si spezza, ma ammesso che si spezza, non cade per strada. E invece se si trova, se ingaggia lo stilo centrale, la fa danno veramente, altro che non è una fortuna. Mi sembra che lo stesso discorso è successo a Tino, che ha dovuto cambiare il troncone di vetrovisi, ma così è Tino, l'antenna che hai messo a posto adesso, quello era il difetto. Sì, dai, riprendo io anche perché devo mollare. Sì, ho cambiato il tubo di vetrovisina perché se non cito, quindi si è piegato e si è rotto. L'ho riportato a nuovo, anzi avevo un pezzo di tubo proprio originale della Mantova e l'abbiamo sostituito, abbiamo cambiato misura e è risoldato tutto. Scusate, ma devo mollare, mi devo allontanare dalla radio. Ciao Tino, buona carica, dai. No, devo fare altra roba. A dopo magari, dai, ciao. Ciao Tino. Sì, ciao. Sì, ma comunque, poi, ripeto, sempre comprata nuova giada. Io ti consiglio, poi tu sei padronissimo di decidere tu con i tuoi soldi e comprare quello che credi. Però se hai decidi di comprarla nuova, la Game Master. Intanto perché te la danno per le stesse caratteristiche, lo stesso valore. Ma c'è una cagata, Santena, è finita. Guarda il logo nel computer che è anche più ampio. può essere anche, anche meno efficiente, però in lontananza è migliore. Leggi bene il computer, io ho letto tutta la pagina, che è una pagina abbastanza lunga, e ti posso dire che ha delle caratteristiche non indifferenti. Va benissimo. Se prendi qua. Giulio, ognuno fa quello che vuole. Io ho iniziato con la Mantova e non mi ha mai creato problemi, quindi per me tutte le altre antenne sono noia, come la canzone di Califano. Gianni non deve comprare niente, Gianni c'ha l'antenna nuova e la vedrai tra qualche giorno quando è montata. Nuova. Perché il piantone è stato rifatto a nuovo, tutto nuovo, la decoration è nuova, la spirale è nuova, il tubo è nuovo, gli agganci sono tutti nuovi. L'avvolgimento è tutto nuovo, rifatto a nuovo, con filo nuovo, connettore cambiato, messo connettore da esterno Amphenol, non con vitine del cacchio, con dado e bullone passante, quelli fini in acciaio inossidabile. È un grandissimo lavoro e sono sicuro che quella antenna le dura un'eternità, Gianni, un'eternità. Ah, gratis. Vai Marco. Sto mangiando, tanto per cambiare, dai, sto ascoltando. Vabbè, vai Gianni. Pranzando Marco, KK, e io non lo metto in dubbio che possa essere anche un'antenna che vada bene. Io ci stavo pensando perché non avevo più il problema delle cadute dei radiali con quell'antenna, però non so se... diciamo l'efficienza sia la stessa, prima di tutto in trasmissione, ricezione e poi anche come robustezza di antenna, ecco. Bisogna vedere anche quello, ma bisogna che ci vada a farmi un giro e vediamo un po' che cosa... Adesso vediamo come va questa qua, se va bene questa qua, Cassina Futi di Giambantenna. Ero qua, stamattina stavo per comprare anche tiranti Claudio, non so chi mi ha trattenuto a comprarli, hanno comprato. Sono trattenuto io perché quelli vanno bene, tiranti se li vuoi cambiare cambiamo l'estate, il tempo è caldo, adesso si riginiscono, ma quando l'estate si torna a dettali, capito? I lavori vanno fatti l'estate, adesso si monta l'antenna e basta. I radiali, e te lo metto per iscritto, in tutti gli anni che io sono in radio, quindi più di 40 anni, a me non ho mai perso un radiale della Mantova 1 o della Mantova 5, che siano in fibra, che siano in alluminio, ok? Mai e poi mai. Chi ne sono caduti da soli, ma non per colpa dei corvi o degli uccelli, da soli, li ho persi da soli qualcuno, sono quelli della Mantova Turbo, perché il sistema a me non mi piaceva. Che ne dicano a me, quel sistema non mi piace, ok? E quindi qualcuno l'ho perso da lì, ma della Mantova 1 e della Mantova 5 radiali non ne possono mai uscire, mai e poi mai, capito? Assolutamente, questo è quello che penso io e quello che è successo a me, poi di quello che fanno gli altri, io ascolto e metto in cuccetta, però per me la Mantova 1 è la migliore antenna e la Mantova 5 sono le migliori antenne per la 27. Tutte le altre sono noia, che siano delle belle antenne funzionanti, te l'ha già fatto Marco il discorso, no? Quindi per me è la migliore antenna in assoluto, io ho sempre quella e continuerò ad avere sempre quella, a costo di andare a comprarla in capo al mondo. Le antenne non te l'hanno mai buttate perché avete su grattacielo e gli uccelli di su non ci arrivano, le cornacchie non arrivano sin da su, invece vicino a casa li metto da mangiare ai gatti, loro vanno a mangiarsi la roba dei gatti e... stiamo andando, vanno a mangiare la roba dei gatti e poi se ne salgono sopra l'antenna mia. Vabbè, detto questo saluto tutti cordialmente, io me ne sto andando perché Teso mi sta avvisando che deve andare. Aiù, andiamo Tesori, mi ha già avvisato. Ciao a tutti, ciao. E io sono già rientrato, ho già portato, ciao Gianni, ci aggiorniamo il fine settimana allora, dai. Ok, avanti Giulio, anch'io dopo, un altro passaggio e poi chiudo anch'io perché è pronta la cena, vai. Ok, sì, anch'io sono nella medesima situazione. Sì, ma adesso sì, ma io questo glielo ho detto, allora non mi avete ascoltato. Adesso questa antenna la state preparando, vabbè, sfrutta quella e basta. Io ho detto, se decide di comprarsi l'antenna nuova, ho detto, se decide, ripeto, di comprarsi un'antenna nuova, comprati una B piedi in mappe, perché? Per il semplice motivo che deve pensare alle condizioni con cui si trova lui adesso, con questo fatto del piede, eccetera. È una antenna leggera, può lavorare da solo, non ha radiale, non ha niente. Non è un cazzo. Funziona bene, sono sicuro che funziona bene, perché basta bene le caratteristiche che ci sono fitte nel computer. E l'ho letto più volte, e da diverse case che la vendono quell'antenna lì. E le caratteristiche sono addirittura superiori alla Mantova Turbo, addirittura superiori. Poi tu mi dirai, ma bisogna anche provarla. È vero, io sono d'accordo con te che bisogna anche provarla. Però mi ricordo che quando ce l'aveva Sandro, con quella antenna lì, arrivava più forte di quando aveva la Mantova, perlomeno qui da me. Cosa puoi dire di Gianluca? Io ho detto solo, esclusivamente, se devi comprarla nuova, così almeno se ne toglie il pensiero di irradiarmi e il pensiero di tante cose, soprattutto adatto alle possibilità fisiche sue, di Gianni, perché purtroppo essendo adesso in quella condizione non è che può fare sforzi, insomma, il discorso è quello, è poco ingombrante, è poco visibile, è tutto quanto, invece quando vedi di capo l'acqua sul tetto, capita, la gente già lo sai come, non c'è bisogno che te lo spieghi. Dunque io l'ho preso lì. Adesso è chiaro, ce l'ha, basta sempre parlare, si insulta quella, certo, ma che hai chiaro, ce l'hai, basta. Tutto mio qua. Sì, ma infatti adesso sfruttiamo questa, visto che l'ho rimessa nuova, vediamo, poi più avanti deciderà lui cosa fare. Vabbè, mi hanno già chiamato, ciao Marco, Gianni, Giulio, chiunque fosse in agguato, vai. Correti per me che è pronta la cena, ciao ciao, domani. Ok, ciao, ciao, ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao Marco, buon appetito, se stai ancora pranzando. Non ce l'hanno, pranzando, chiudo, ciao. No, questa è la merenda, Giulio, ciao Claudio, ciao Giulio, ciao a tutti, ciao.